Ma non fa, è una, ma guarda che mia moglie non è, non è, mia moglie non è mia moglie, è una signora che ha una sua testa, una sua politica e una sua esistenza. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Matti, siamo tutti matti, urliamoci, insultiamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti. Nami dati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori ogni misura. In fondo ogni promessa, l'incertezza e la paura. Fragili ed inetti, bugiardi trasformisti. Regalaci un computer se non vuoi vederci tristi. Siamo tutti matti. Se cambio il paese, allora, non cambio l'allenatore. Posso dirle una cosa? Io sono stato classificato come il miglior allenatore, allenatore imprenditore italiano nel dopoguerra, no? Quando, sì, da tutti. Da tutte le classifiche pubbliche, eccetera, eccetera. Beh, me ne citi un altro? No, no, mi citi lei le sue. Mi citi ma lei le e allora? Io. Ma quali sono queste classifiche? Quali classifiche che stabiliscono che Berlusconi è il più grande imprenditore di non so che cosa dal dopoguerra oggi dell'Italia? Dove sono? Ma lo dico con così, con leggerezza, non per fare polemiche forti. Le classifiche che stabiliscono i migliori imprenditori, in base a cosa? Se le fa da solo, evidente. No, magari ci sarà pure qualche classifica, non lo so, da qualche parte. Ma secondo te, ma esiste una classifica mondiale o anche solo italiana che certifica che il signor Berlusconi sono i migliori imprenditori degli ultimi secoli? Questo... Non ho mai visto classifiche neanche per altri imprenditori, non mi risulta. E io, come dire, conosco il mondo della Confindustria benissimo da più di 30 anni. Ma quale 30 anni? Che stai dicendo? No, se ne hai 36, che dici? Anche questo è vero. Però voglio dire, illumina la campagna elettorale in un marasma di stronzate, di minchiate e di parole vuote, promesse. Di promesse assurde. Di polemiche inutili su cui ovviamente noi ci immergiamo ogni giorno. Illumina la campagna elettorale il signor Maurizio Crozza. È l'unica luce che c'è, secondo me, l'unica luce, a parte alcuni candidati che mi piacciono, adesso fra poco dirò che se Travaglio dice che vota alla Camera per Ingroia e al Senato per il Movimento 5 Stelle, così ha dichiarato, non si capisce perché i conduttori televisivi e radiofonici non possano dichiarare esplicitamente per chi votano. No, è una cosa assurda, è una cosa assurda. Dunque, dico sin da adesso che ero negli ultimi giorni di campagna elettorale, vabbè, lasciamo perdere. Crozza, così si rivolge a Giannino, ancora stai lì, senti, ieri sera. Ma Giannino è ancora lì con quei baffetti? Ma dove vai Giannino? Liberalismo, concorrenza, ma comprati un vestito normale, toh, tieni 500 euro, vai al mercatino, dai. Che figata. Ovviamente fa Berlusconi, Crozza, Beh, spettacolare. Su De Magistris, bisognerebbe mandarlo tutta la sera, De Magistris, senti. De Magistris, vuoi che ti faccia anche a te il segno delle manette, come ha fatto Ingroia? Dai, vieni, prendimi, inseguimi. Ma con cosa mi segui, De Magistris? Con gli autobus fermi perché non c'è gasolio? Ma che cazzo fai? Ma che figata! Maroni, si rivolge a Maroni, sentite. Ma chi c'è lì? Ma chi è che c'è lì? C'è il mio amico Bobo! Guarda che simpatico Maroni, ci sei ricascato ancora, Bobo? Che figata. Guardalo, diceva sempre, meglio con Berlusconi startuppiamo il nord, demafizziamo il nord. Ma che cazzo dici? Ci sei ricascato, Bobo? Guarda che bisognerebbe mandare solo questo, perché in queste piccole perle si riassumono tante stronzate, tante cose generiche, tante chiacchiere che si dicono in campagna elettorale. Bastano questi piccoli pezzetti per far capire come stanno le cose. Diciamo la verità, è così. Cioè non c'è oggi, un editorialista, se vogliamo anche uno che fa satire, eccetera, che abbia la capacità di riassumere le cose come fa Crozza. Questo si deve dire, è così. Poi se la piglia, poi se la piglia con tutti, certo, è da sinistra, però se la piglia con tutti, da colpi a destra manca, non gliene frega niente, Bersani, quello, eccetera, da colpi a destra manca, poi voglio dire, quello che pensa e quello che vota, chi se ne frega, no? Ma certo. Senti su Bersani, poi a un certo punto dice, ma chi ti capisce? Poi ti do una notizia, però. Ha detto, ci può mica fermare l'acqua con le mani. Ma che cazzo dici, Bersani? Ma chi ti capisce? Tieni, comprati un tappo, fatti una diga. C'è chi piace la diga. Che digata. Sono troppo simpatico. E poi ancora su Berlusconi, che ovviamente in persona. Ho sparato tre. Mi devono tutti per morto. Ho sparato tre cazzate in cinque giorni. Sono tutti in paranoia. Che figata. Ho detto Mussolini, Balotelli, Imu. Poi ho adottato un cane e ora sono al 20%. Ma te pensa un po' com'è bello questo paese. Quanto amo questo paese. Beh, però l'intervento di Crozza è pareggiato, solo pareggiato, ormai è un gradino sotto. E la cosa più spettacolare che ho visto oggi, cari ascoltatori della Zanzara e di Radio 24, dovete andare subito a cliccare, dovete andare sul web e a mettere l'intervento, anzi il manifesto elettorale di un nostro mito assoluto. Te lo ricordi quello del muto? Sì, il mitico Razzi, ex Di Pietro, poi con Berlusconi, adesso ha ricandidato in Abruzzo, la sua terra, almeno lì hanno avuto un po' di pudore a metterlo nella sua terra. Senti, sta spiegando i suoi meriti. Ho creato il volo Zurigo-Pescara. Senti. Dico, dopo aver lavorato all'estero, ho portato tante iniziative a favore dell'Abruzzo. Pensa il volo Zurigo-Pescara. Pensa di tornei di tennis, tornei di pallone che ho organizzato a Francavilla al Mare e a Montesilvano e a Pescara addirittura con il primo ministro Borisov della Bulgaria a favore dei terremotati dell'Aquila. Io credo che bisogna fare le cose concrete e per fare le cose concrete il popolo abruzzese al Senato il 24 e 25 di febbraio le ricordo di votare il Popolo della Libertà. Il torneo di tennis di Francavilla al Mare. Beh, stupendo. Razzi, ti abbraccio perché solo tu sei in grado di regalarci queste gioie infinite. Solo tu. Non c'è nessun altro in grado di regalarci queste gioie. Uno che in maniera così esplicita, così sincera dice: io sai che ho fatto? Ho creato, a parte che non sarà stato lui a creare il volo Pescara-Zurigo, ma è anche, dice anche, tra le cose che ho fatto, organizzare il torneo di Francavilla al Mare invitando il premier della Bulgaria di non so che cosa. Almeno è onesto. Sì, è stupendo, è stupendo. Ma tu sai l'altra notizia del giorno qual è? Qual è? Dimmi che c'è una persona in tutti, onda, dimmi. In tu linea, ti ricordi, in diretta, ti dimmi. Ricordi il signor Dimitri, quello dei bambini di Satana? Sì, dimmi. Ecco, il signor Dimitri è candidato in lista con Margherita Hack. Sì, lo so, sappiamo tutto. I bambini di Satana, amico mio, mancavano solo loro, dopo Razzi e Scilipotti, i bambini di Satana. Le bestie di Satana, no, i bambini di Satana, scusa, hai ragione. Hai ragione. Stavolta il hai ragione. Signor Dimitri! 800 24 0024, ma è con noi il mitico, ormai tra i siccome sono quasi tentato a votare Grillo, ormai è diventato ho quasi la fotografia sul comodino, il professor Paolo Becchi, buonasera. Carissimo, è un po' che non ti sentivo, mi fa piacere sentire la tua voce, però non chiamarmi professore, se no poi qui sono un normale cittadino, un cittadino che voterà 5 Stelle. Dai, vabbè, adesso, normale cittadino, professore. Normale no. Sì, sono un po' pazzoide, sì, d'accordo, ha ragione anche lui. Sì, è un po' pazzoide, allora qual è il problema? Io vorrei che il signor Cruciani ricordasse il suo curriculum, perché lei è professore universitario, non è uno stronzo qualunque. È un professore universitario, ma per la sua militanza, tra virgolette, per il suo tifo sfrenato per il Movimento 5 Stelle, caro professore, ha problemi all'università, sì o no? Perché Grillo No, ragazzi, questo non è vero, no, assolutamente, no. Non ho nessun problema. Perché siccome Grillo ha detto... Sì, considero un po' pazzo, però non ho proprio nessun problema. Ma gli studenti che... di espressione, no. Ragazzi. Ma gli studenti che dicono? Ma io, le mie lezioni sono neutrali. No, d'accordo, però lo sanno, Come? Lo sanno che lei che lei fa. Non l'ho mai detto, non lo dico a lezione, per cui penso loro magari lo possono immaginare dai giornali, quelle cose lì, ma durante le lezioni io non faccio propaganda, io distingo molto le cose, le mie lezioni sono scientifiche, basta. Ora poi se mi vengono a trovare fuori orario di lezione si può chiacchierare, prendere un caffè insieme, questo ci mancherebbe altro. Ma scusi professor Becchi, ma recentemente Grillo ha detto che se sei del Movimento 5 Stelle rischi nei posti di lavoro, adesso questo francamente mi pare un po' esagerato. Ma io non lo so a cosa si riferiva, però io posso assicurare che per fortuna al momento attuale nell'università questo problema non c'è. Magari ci saranno pochi professori che come me si sono dichiarati favorevoli al movimento, ma ripeto, la libertà al momento nelle università abbiamo altri problemi, non abbiamo i soldi per comprare i libri, altro che libertà. Ma che dice dell'inciucio Monti Bersani, professor Becchi? Sì, sì, certo. No, quello mi sembra ormai il dato di fatto. È tutto pronto? Sì, è già tutto pronto. Probabilmente tutto apparecchiato? Sì, addirittura secondo me sanno già i nomi dei ministri, si sono già messi d'accordo sui nomi dei ministri. Però vi posso dire una cosa, durerà poco. Segnatevela questa cosa. Segniamocela, Parenzo, segnatela. Il professore ha detto, il mago Telma ha detto, cioè, che sarei io a questo punto, ha detto non che... Non tocchi quello, sennò quello si incazza, poi... Sì. No, vabbè, ma è un amico, per cui... Che è genovese pure lui, sì. Lo diceva, è genovese anche lui, lo dicevo in senso insomma, buono. Per fargli piacere, non per trattarlo male, ci mancherebbe altro, una cara persona. Ma no, quello che volevo... Capito, Parenzo, c'è una comunione di intenti tra il mago Telma e il professor Paolo Becchi. Ma no, no, scherzavo, volevo fare una battuta, che è difficile prevedere il futuro ovviamente, però io ho l'impressione che la prossima legislatura sarà destinata a durare poco, perché insomma questa vittoria del centro-sinistra sarà una vittoria di Pirro. Comunque una volta lei ci disse una frase fenomenale che fece il giro di tutto il web, io da allora la adoro: se incontro Monti per strada gli sputo. È stata un po' forte, lui potrebbe per questo sicuramente querelare. Ma no, lo riconosco. Però ricordatevi che era in relazione allo sputiamo su Hegel, ecco, era la mia... Scusi professor Becchi, ma ha visto che attacco Vanity Fair, cioè la figlia di alcune persone morte in quel famoso incidente stradale che coinvolse Grillo? Ma io credo che bisognerebbe hai ragione, oggi ne hanno parlato Vanity Fair, ma io credo che bisognerebbe distinguere il piano personale dal piano politico. Vanity Fair non ci sono mica i poteri forti dietro che dirigono Vanity Fair, l'hanno fatto per fare uno scoop giornalistico, punto e basta. Sì, certamente, però è vero, ma mi sembra che sia controproducente. Secondo me il Movimento 5 Stelle, guarda, ho parlato recentemente con un giornalista francese e tutti gli istituti di pubblicità, tutti gli istituti che si occupano di sondaggi eccetera, lo danno al Movimento 5 Stelle all'estero molto più alto che di quello che lo danno in Italia. Vabbè, ma quello bisognerà vedere. Ma che sono degli sciacalli a Vanity Fair? Scusa? Sono degli sciacalli. No, non voglio dire questo, ma io mi sembra una cosa che non è abbastanza inconsistente, cioè cosa vogliono mirare a dire? Vogliono dire che dal punto di vista privato è una persona... Una merda, insomma, lo dica. Appunto, ma secondo me non... A parte il fatto, cioè voglio dire... Vabbè, perché non ha mai parlato, diciamo, lei, la sorella, la figlia di quelli morti nell'incidente stradale... No, era la figlia di bambina allora, no? Sì, dice, mi ha mai parlato, non mi ha mai voluto ricevere, non mi ha mai voluto parlare di questa cosa qui. Ma io questo francamente non lo so, ma voglio dire, queste sono cose private, cosa ha a che fare con il programma politico? No, nulla. Se si vuole criticare il Movimento 5 Stelle ce ne sono... Però è anche vero, professor Becchi, a un certo punto quando uno si candida... Lui non si candida. Vabbè, ma quando uno si candida ed è in politica si deve aspettare che la sua vita sia scartavetrata, tutta la sua vita sia scartavetrata. Sì, e dunque si tira fuori tutto. E non c'è dubbio, ma ripeto, secondo me non... Cioè, se Berlusconi sta crescendo, cresce per le cose, per le sparate che tira fuori sempre durante... ogni giorno ce ne tira fuori una nuova. Ma intervenire sulla vita privata a me non piaceva, come quando si faceva su Berlusconi. Non vedo perché dover fare delle polemiche ora. Infatti 20-30 anni fa. Ma infatti gli altri partiti non fanno polemiche. Traffico, torno subito. Ah. Eccoci qui, 800 24 00 24, col mitico professor Paolo Becchi, professore dell'Università di Genova, nonché grande supporter del Movimento 5 Stelle. Parenzo, dove diavolo sei? No, lo dico, beh, intanto aggiungo al traffico ottimo all'amico che ha fatto prima questo dettaglio, dicendo che sulla pontina tra Latina e Roma, traffico intenso, macchine ferme e grande nervosismo. Questo per chi sta andando da Latina a Roma sulla pontina a 20 km da Roma. Informazioni in più sul traffico, cari amici che siete qui, sono in macchina con voi, sono con voi, sarò con voi fino alle 21, avanti tutta la zanzara. Di Becchi non se ne sentiva la mancanza, questo fammelo dire, perché Becchi, il professor Becchi è un irresponsabile, è un grande irresponsabile. Perché? Che ha fatto di male? Scusa. Perché fa il tifo per Grillo? Qual è il problema? Faccio il tifo per Grillo, su. Sei un irresponsabile, Becchi. Perché? Perché? Perché? Perché usi perché giustifichi i toni violenti di un uomo che ormai, anche se non è candidato, ha scelto di fare politica. Giuseppe, lasciami parlare. Vai, sono magari un po' violento di carattere, così, però i toni violenti oggi non mi pare di aver avuto nessun tono violento, non diciamo così. E poi non faccio politica, io li sto aiutando un po' questi ragazzi così, come, ma mi pare in una maniera del tutto spontanea. Io gli do fiducia a questa gente che, insomma, mi auguro possa fare un buon lavoro in Parlamento, ma non c'è nessuna. Scusami, professore, ma Grillo, quando ha detto che dava le coordinate ad Al-Qaeda per far sparare sopra il Parlamento, che hai pensato? Ha fatto bene? Appunto. Anzitutto bisogna distinguere. No, ma dillo però, fai il professor Becchi, non fare quello secondo me sono soltanto battute, nessuno se le prendeva, se ogni tanto uscivano delle altre battute, non so, sull'Unità d'Italia da parte di Bossolo, che cosa ne so io. Non mi sembra non vi dovete fissare su alcune espressioni. Guardate i programmi, soprattutto guardate le piazze. Cioè, cosa ha creato Grillo? Grillo ha creato qualcosa che è una comunità, è quello che i tedeschi direbbero un Gemeinwesen. Come? Un Gemeinwesen. Cioè, è qualcosa che va al di là della società civile. Ci sono partiti che esprimono la società civile, ma lui sta toccando alcune corde che riguardano proprio la comunità degli italiani. Vabbè, quello però quello fa parte così dell'analisi sociologica di quello che succede nel Movimento 5 Stelle, non ce ne frega assolutamente nulla. Sì, va bene, se riempie le piazze, però i comici le hanno sempre riempite le piazze, un sacco di gente va là per sentire le battute. Professor Becchi, su, diciamo la verità. No, come no? Guarda, secondo me sì, sicuramente. Sicuramente ci sarà. Dai, su. Lo vedremo nelle urne, perché siccome io presumo il Movimento 5 Stelle se la gioca al terzo posto, e allora, insomma, vuol dire che quelle piazze avevano un significato. La piazza di San Giovanni, dove si concluderà la campagna poi vedremo. Ma è normale che Grillo riempie i teatri, riempie pure le piazze, ma è normale, i comici riempiono sempre le piazze. Questo è normalissimo, poi dopodiché vedremo i voti, questo è un altro discorso. Senta, l'altro giorno Facci sul Libero ha scritto una cosa. Incazzatissimo con Monti per alcuni suoi atteggiamenti, eccetera. Mi verrebbe, era ovviamente una provocazione, però insomma abbastanza pesante. Vedo Monti e penso di rifondare le Brigate Rosse. Beh. Ma vedi, sono di nuovo battute fortissime. Che se le dicessi io, domani mi trovo sul giornale Repubblica, arrestate il professor Becchi. Poiché l'ha detto Facci, non succede niente. Però c'ha la sua logica, non lo metto in dubbio. Cioè, a me, tra l'altro, Facci piace come scrive, è aggressivo come me. Qual è la logica? Io sono violento, no? Ma insomma, è chiaro, io trovo Monti, e Monti non è stato il salvatore dell'Italia, Monti è quello che l'ha rovinata l'Italia. C'entrano le Brigate Rosse, però, scusi? Non c'entrano le Brigate Rosse, ma non lo so, c'entrano per dire che lui lo vorrebbe eliminare, forse in quel senso lì l'avrà detto. Ma pure lei lo vedrebbe? Nel senso di dell'idea politica che ha rappresentato. Ho capito, però se uno cita le Brigate Rosse, insomma, diciamo la verità, professor Becchi, se Monti gli accadesse qualcosa a lei non dispiacerebbe, su, diciamola tutta. No, guardi, io distingo il piano personale dal piano politico, io il piano personale proprio lo lascio, e mi interessa la figura istituzionale di Monti, e io critico quella figura istituzionale. E dunque Monti si deve togliere? Ma la critico dal punto di vista politico, come un conflitto politico, ma basta, non c'è bisogno, quella secondo me sono affermazioni che insomma sono, cioè, non hanno, possono essere così una battuta. Ma perché Grillo non parla mai dei matrimoni gay, di questi temi? Veramente lui ha lasciato una dichiarazione dicendo che lui personalmente era d'accordo. Vedete, il movimento funziona in maniera diversa, cioè c'è molta discussione. Se voi andate sul blog oppure anche ma comanda solo Grillo, su, mi dica la verità, che ma ne pensa di questi qua che adesso criticano Grillo dicendo che è un guru, dicendo che è una setta, eccetera, Fabia? Secondo me Grillo guardate ragazzi, io credo questo: quelli che saranno eletti dimostreranno le loro capacità, dipenderanno solo da, dipenderanno da Grillo. Non ci sarà Grillo lì, sì, ma dipenderanno da Grillo e da Casaleggio. Grillo non c'è per una follia sua, perché per questa storia dell'incidente non si vuole candidare. Secondo me questi giovani che andranno, perché sono in larga parte saranno giovani, dei burattini giustamente in mano di Grillo. Non sono burattini, guarda, sono tutte persone che ragionano con la loro testa e che hanno delle idee, soprattutto che hanno delle idee in testa. Ma sì, ma certo, ce l'avranno pure delle idee, ma lì vuole... Secondo me cercheranno di farle valere. L'unico modo per cui può funzionare quella roba lì è che comandino Grillo e Casaleggio. L'unica cosa geniale è questa, comandano lui e Casaleggio, prenderanno il 15, 16, forse anche il 20%, 18%, una piccola pattuglia di corsari in Parlamento, a me sta benissimo, per carità. Una piccola battaglia col 20%, scusami, ma è più che una piccola battaglia. Beh, perché non si è candidato pure lei, professor Becchi, scusi? No, io non mi sono candidato perché semplicemente io voglio continuare a fare il mio lavoro di professore, e poi secondariamente io non sono un attivista, come voi sapete. Vabbè, ma che c'entra? Sì, ma... Bisognava essere... Loro hanno delle regole molto precise. Ma le decidono solo... Ma l'ha detto Casaleggio, le decidono lui e Grillo le regole. Ma è normale non che è sia... vero, le regole sono del movimento. Bisognava essere iscritti da un certo periodo di tempo. Io non ero iscritto, ma non ho neanche preso in considerazione. A me interessava aiutarli un po' intellettualmente. Professore, la ringrazio. Un abbraccio, a presto. Giornale Radio. Ciao. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. È il Giannino Moment. Una moglie tradita da 18 anni non ritorna con il marito. Io preferirei che mi dicesse: voglio levare 8 miliardi di questa spesa improduttiva, lo farò il primo giorno. Non l'ha mai fatto! Mai Berlusconi! Se ne ha avuti di primi giorni? Mai! Cioè, in 18 anni, santo Dio! Io penso, chiedete a una moglie o una donna italiana, se dopo 18 anni che un uomo lo tradisce, continua a stare con lo stesso uomo. La risposta è no! Ma sì, ma... Ma quando un confronto, caro Parenzo, quando un confronto Berlusconi-Giannino, un faccia a faccia Berlusconi-Giannino, altro che Berlusconi-Bersani, ci dovrebbe essere un confronto Berlusconi-Giannino, diciamo la verità. Splendido, sarebbe splendido, e facciamo un appello affinché lo facciano da noi alla Zanzara col signor Dimitri anche. Ma chi è il signor Dimitri? Sei fissato con questo Dimitri? Quello delle bestie di Satana. No, i bambini di Satana ha candidato con Margherita H. Vabbè, ma non conta un cazzo, dai, su. No, no, io voglio anche un confronto con il signor Dimitri. Voglio sapere il signor Dimitri, ad esempio, dei bambini di Satana. Lo abolisce l'IMU oppure no, il signor ecco, Dimitri? Ecco, io ho detto una cosa molto semplice. Già ieri e ho fatto un tweet questa mattina. Cioè, ho detto, sono favorevole al matrimonio e all'adozione omosessuale, ma questo... Non mi porta a dire una stupidaggine come quella che Roma è una città infestata da bande che aggrediscono gli omosessuali. Solamente per avere detto una cosa di questo tipo, solamente per aver espresso questa opinione, sono favorevole a matrimoni e adozioni, ma non a sostenere la stupidaggine che Roma è pericolosa per i gay. Si può, punto interrogativo. Mi sembra un'opinione legittima, no? Come no? Una signora che non conoscevo, sedicente candidata alla Camera con scelta civica. Perché devi dire sedicente? Ma non lo so, lo dice lei, non ho controllato. Sedicente candidata alla Camera per scelta civica. Ovviamente con Troia. Ovviamente no, scelta civica è Monti. Scusami, sì, che è Monti, certo. Sì, l'altro è Rivoluzione Civile. Non Rivoluzione Civile. Ovviamente, quanti cognomi ha questa candidata? Beh, ne avrà almeno tre. La signora De Frasca di Francisco. De Ruglia. No, la signora Camorani, no. Scarpa, Camorani Scarpa. Questa signora mi ha detto che sono stupido ed esibizionista. Vabbè, non ma è grave. Ma guarda, sono esibizionista, no. Stupido sì, però, no? Ma lei gira sempre intorno a me. Voglio dire, ho espresso un'opinione, non è che ho detto chissà ti che. Ti posso dare una notizia? Comunque, aspetta un attimo, senti questo leghista, Bitonci, il nostro amico Bitonci, ricandidato alla Camera, Veneto, ex sindaco di Cittadella, il quale dice non esistono aggressioni ai gay. Senti. ti ho beccato. Io non prendo lezioni da nessuno, è logico che noi condanniamo le aggressioni, tutte le aggressioni, ma non esistono le aggressioni gay, cioè ai come gay, esistono delle aggressioni fatte a tutti i cittadini, dopo ci sono alcuni casi di alcune persone che magari subiscono dell'aggressione e sono gay, ma non esistono le aggressioni fatte a tutti i gay. No, adesso io non arrivo a questi, è vero che esistono le aggressioni secondo me. Esistono anche dei deficienti, degli imbecilli, degli ignoranti, nonché dei violenti che vanno presi e condannati per la violenza che fanno. Non è che vanno presi e condannati quelli che urlano a Procio, a pezzo de merda, no, quelli non, a quelli non va fatto nulla. Nulla. Personaggi come Bitonci, comunque volevo passare sei 30 secondi, sì. Sto prendendo un kebab all'Eur, a lì. Ti basta un secondo? No, a non me ne frega niente, mando i titoli del TG3, non me ne frega nulla di Ali, titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Monti e Bersani, se vuole il dialogo deve fare chiarezza nel suo campo, ma per ora non ci sono accordi in vista. Mi fa rabbrividire il ritorno di PDL e Lega. Il segretario del PD replica: il mio polo non si tocca, dialogo con le forze riformiste senza condizioni. Dura replica anche da Vendola, stasera ospite al TG3. Berlusconi vede comunque prove di inciucio, Bersani e Monti ormai lo hanno confessato, dice poi rilancia sul taglio IRAP finanziato da condoni. Napolitano in visita a San Vittore, la situazione carceraria è gravissima, in gioco l'onore e il prestigio del paese, avrei firmato l'amnistia 10 volte. Indagati Musso e Vigna, ex presidente ed ex direttore generale di Montepaschi, per la procura manipolavano il mercato, lo scandalo derivati sul tavolo del CDA. Tunisi in rivolta per l'omicidio politico del capo dell'opposizione, scontri e barricate, domani sciopero generale, il paese sull'orlo di una guerra civile. Tra poco ad Amsterdam gli azzurri affrontano l'Olanda, per la prima volta in campo due italiani di seconda generazione, Balotelli e El Shaarawy, punte di un'Italia che cambia. Oh, ma chissà perché quelli che ci scrivono candidati della lista Monti Scelta Civica hanno tutti i doppi cognomi, ma sarà un caso? Adesso c'è pure Camorani Scarpa, l'altra è non so che cosa, che cos'era l'altra? La Borletti Buitoni. La Borletti Buitoni. Allora ti leggo un messaggio straordinario, non posso dire emittente senza la sua autorizzazione, sulla questione di Roma, è stupendo. Secondo Vendola, Roma omofoba, ma va là. Loro stavano ancora sugli alberi, penso che si riferisse ai pugliesi, e a Roma eravamo già froci. Beh, siamo al top. Questo è, loro stavano ancora sugli alberi e a Roma eravamo già froci. Ma dai, su, Roma omofoba, il pericolo di aggressioni, ma di cosa stiamo parlando? Più ci penso, più vado ai matti per questa cosa qua. Più vado ai matti. Ma c'è un Vendola di oggi su questa roba qua? Allora, sentite il procuratore Grasso, che non capisco perché intervenga su altri argomenti che non siano la giustizia, anzi in questo caso in parte c'entra con la giustizia o la mafia, eccetera. Lo mandano alle trasmissioni, secondo me, spesso allo sbaraglio, lo dico con affetto, con grande affetto, lo abbraccio fortissimo. Però, insomma, di che stiamo parlando anche qui? Su Berlusconi e l'IMU è tipica ipotesi tipica di voto di scambio, cioè vorremmo mettere sotto inchiesta Berlusconi, signor Grasso, ma dai, su, ma siamo seri, è semplicemente una stronzata quella della restituzione dell'IMU, dai. E l'ipotesi tipica del voto di scambio elettorale, cioè che, la nostra legge elettorale prevede. E quindi mi fa sorridere, perché poi non mi stupirei se qualcuno presentasse un esposto. Da magistrato avrebbe aperto un'istruttoria. No, certamente no, ma mi fa sorridere questa. Certamente no, ma se qualcuno presentasse una denuncia o un esposto, sì, qualche magistrato sarebbe obbligato a valutare questa ipotesi. Perché esiste una legge che vieta che si offrano, promette denaro o altra utilità in cambio del voto. E punisce anche chi lo riceve. G3 c'era l'altro giorno un'intervista del professor Pasquino, credo su Italia Oggi da qualche parte, professor Pasquino sto dicendo, non il professor Urbani o il professor non batte la pesca simpatizzante di Berlusconi, professor Pasquino, il quale diceva esplicitamente, molto chiaramente, che tutte le promesse elettorali, ovviamente nei limiti della decenza, vanno bene, per cui si tratta semplicemente di una promessa elettorale che io classifico come stronzata, qualcun altro classifica invece come una promessa buona, ma con i reati non c'entra nulla. Cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi. Beh, poi splendida, devo dire, l'analisi di Grasso sugli F-35. Senti questa cosa qui, Parenzo. Senti, ma dove sei? Sempre con l'arabo del kebab? Dove sei? No, il kebabaro, il mio amico arabo. Aspetta un attimo, che te lo passo subito se vuoi. Signora Ali? Ali? Eccolo Ali, te lo passo in esclusiva alla Zanzara. Ali, ma vota in Italia, sto lì. Cipolla? Sì. Cipolla piccante? Ma come cipolla piccante, Ali? Scusi. Bolle arroste. Ah. Non so che vuoi, manzo. No, manzo. Piadina, banino. Ma fa malissimo il kebab. È una roba che fa male, cipolla, roba pesantissima, molto pesante, fa male, allo stomaco, sì. Male. Alito cattivo. Se ti piace cipolla, prende cipolla, se no piccante. Parenzo piace cipolla. Sì, Parenzo piace cipolla perché te credo con la panza che c'ha, cioè mangia come un addannato. E poi va in palestra a cercare di recuperare ormai da qualche tempo perché vuole fare il signorino. Ma la situazione è quella che è. Cioè, la situazione è quella che è. Fa male il kebab, fa male o no? Oggi preso piadina con bolli e sta benissimo, Parenzo. Per me. Sta benissimo. Ma sembra buono. Ma lei scusi, che vota in Italia, lei, signora lì? Io non so se vuote, io lavoro molto. Vabbè, quello chi se ne frega, tutti lavoriamo. Se vuoi mangiare il kebab, viene. Ma quello ho capito. Con piadina, banino, quello che vuoi. Ho capito, ma lei, dove, lei vota in Italia? Io questo non posso dire questo, Parenzo. Tutto può dire. Tutto. Non interessa, prende bollo. Vuoi bolle, vuoi... Grosciane. Sì. Grosciane, scusi, radio, eh? Radio 24, sì. Scusi un attimo. È nemico di voi arabi, è nemico. Ma quale nemico? Ma quando... Parenzo basso, Parenzo è pazzo. Parenzo, su questo non c'è dubbio. Scusi, signor Ali del kebab dell'Eur a Roma, io vorrei capire una cosa. Lei vota in Italia oppure no? Io votato il mio paese. Vabbè, non vota in Italia, allora che ce frega. Chi voterebbe in Italia? Io voto Parenzo. Ma Parenzo non si prende. Un poco passo, vero simpatico. Ma scusi, ma come vi conoscete? Qual è l'unione? Cos'è che vi lega? Cioè, lei e Parenzo, viene spesso lì in quel kebab, che fa? Gli passa il fumo? Che fa? Passa, salute, prende bollo, piadina. Col kebab, eh? Normale, molto normale. Normale, ma un po' pazzo. Ma l'alito non è cattivo del kebab, alito cattivo, fa l'alito cattivo kebab, no? Ma se tu prendi cipolla, prendi solo piccante, no? Beh, insomma, non è che il piccante sia proprio così leggera come cosa. Il piccante del kebab tutto farcito. Fa bene, o come si dice? Di che fa? Anche amore. Ah, sì, certo, fa tipo Viagra, no? Un poco di passioni, di amore con donna, con tua donna. Con mia donna. Se hai donna. Sì, se hai uomo, è uomo. Sì, per lei che c'ha. Però non mi piace tanto questo. A lei non piace tanto uomo, non tanto. A lei non piace tanto uomo. Però Parenzo mangia banino, sta tranquilli e parla con, come si chiama questi? Cruciani, sì, ogni giorno parla con Cruciani. Con Cruciani ogni giorno parla. Siamo messi così. Scusi, a lei non piace tanto uomo, no? Tanto uomo non piace. Non piace, però, no. Però imparato rispetto. Se uno è cliente, mangia il panino, anche se è froscio, non è un problema, anche se è froscio, no? Anche come se si chiama? Grosciani. Grosciani. Anche se è froscio, no? È amico degli americani, lui americani? Sì. Questi non tanto è simpatico, ma a me non interessa, io facendo lavoro e certo, basta che va bene se prende che prende kebab, altrimenti panino, va bene. Altrimenti è un povero stronzo. Scusi, ma anche froscio dunque andare bene se pigliano panino, no? Come hai detto tu? Se pigliano panino, anche frocio andare froce. Bene. Anche froce. Froce? Frocio. Uomo che... guarda, queste polemiche che non mi interessa. Parenzo, io non so, può essere anche Parenzo quello che dice tu, frocio. No, io non l'ho detto. È amico dell'Occidente, Cruciani. È amico dell'Occidente, questo è, capite? Che significa questo? è filo americano moltissimo. Questo non mi piace molto, però ripete, clienti e clienti. Beh, certo. Io in Italia tranquillo. In Italia, basta che uno paga, può essere americano, frocio, comunista, eccetera, eccetera, è uguale, su. Giusto? Rispetto. Io dico solo sempre una parola importante, rispetto. Rispetto. Lo dica bene, lo dica bene, rispetto. Rispetto. Rispetto. Come dici io? No, benissimo, benissimo. Borsa, grazie. Viva i fraci, viva i fraci. Zanza. Regna, caro Parenzo, una grandissima armonia. Ancora stai ridendo per il tuo amico Ali, eh? Io lo so che ancora stai ridendo per il tuo amico Ali. Ma è bravo il kebab, no? Ha fatto anche un'analisi politica. Beh, no? A fare i kebab può darsi, io non li mangio perché sono pesanti e d'altra parte tu sei abituato a mangiare queste robe. Ma così, per quello era incazzato nero, infatti. Ma sì, il pesante. Nemico, ha detto che è nemico. Ma che nemico? Basta che pago e vado lì a prendermi il kebab e divento amicissimo, altro che nemico. Aspetta un attimo, però regna la grandissima armonia, devo dire, all'interno della lista civica di Monti in Lombardia. Come sai, una signora che si chiama Borletti Buitoni, già sbeffeggiata. Ma perché lo dici così? No, perché è stata sbeffeggiata da Crozza. Sbeffeggiata, è stata, insomma, un po', no, messa lì da Crozza. È diventata un soggetto di Crozza, non solo lei ma anche altri della lista Monti, e quelli si sono incazzati, ovviamente sbagliando. La signora Borletti Buitoni, aspetta, Albertini, che non ne perde una, non perde un'occasione, ha fatto un tweet questa mattina. Albertini, ricordiamo la signora Borletti Buitoni che cosa ha detto. Ha detto che alla regione voterà Ambrosoli perché è un voto utile, perché Albertini non conta nulla, dice, non può vincere, dunque per evitare che vinca la Lega, il grande spauracchio della Lega. Siamo in guerra, ha detto oggi in un'intervista a Repubblica. Siamo in guerra, Borletti Buitoni. Ma facevi gli appelli del FAI su Grillo, facevi gli appelli del FAI sul blog di Grillo, sul blog di Grillo, Borletti Buitoni, sul blog di Grillo, e adesso dici che siamo in guerra contro la Lega? Ma dai, su! Siamo in guerra. Ma quale guerra? È un'elezione democratica per fermare il leghismo, per fermare la Lega e Berlusconi. Bisogna votare Ambrosoli. Ma di che parli? Ma non sai nemmeno di cosa si sta parlando. Non sai nemmeno. Facevi il FAI, Fondo Ambiente Italiano, non so come diavolo si chiama. Eri ospite da Fazi a fare TikTok e il monumento, eccetera. Adesso dici che siamo in guerra. Su, a Borlè, dai. La sera sono incazzato nero, eh. Albertini comunque cosa ha detto? Cosa ha scritto? Ha scritto: a noi questa nobildonna ricorda qualcuno, e poi ha mandato un filmato, un link ad un filmato, senti. Ecco, contessa, a lei. Parte da 32 metri la Serbelloni Mazzanti, viene dal mare. Capovaro, posso andare? Vadi, contessa, vadi. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. 800 24 00 24, Ivan da Roma, buonasera. Adesso questa Borletti Buitoni, a me e tutti questi qua della lista Monti che dicono che bisogna fermare il leghismo e bisogna fare, a me mi spingono a votare Maroni, guarda, mi spingono, cioè sono portato così, mi trascinano al seggio a votare Maroni, non lo dovrei dire. Vabbè, ma questo è un linguaggio normale. No, mi trascinano normale al seggio, mi trascinano così, mi portano, quelli che dicono siamo in guerra, bisogna fermare Maroni, ma di che parlate? È un'elezione democratica, democratica, non è che se vince Maroni succede la rivoluzione, succede, no, non succede, capito, nulla, come al solito, nulla, ma zero. Di cosa disca, ma è un linguaggio normale, la campagna elettorale. Il problema non è questo, il problema è che la Borletti Buitoni di Canossa dovrebbe essere alleata di Gabriele Albertini. È certo, è certo. Perché Monti ha dato l'endorsement, che qualcuno alla camionista di Bari non capirà. L'appoggio, l'appoggio. Io lo dico endorsement, non il camionista di Bari che ogni tanto chiama, quello che dice parenti, quello che ogni tanto tu metti nell'assi. Ma lui lo sa, che cos'è l'endorsement, non ti preoccupare, lo sa. Vabbè, fammi parlare con Ivan da Roma, dai, su, Ivan. Buonasera. Vabbè, non faccia così, però non mi voti Lega adesso al volo. Ma no, ma non è questione di votare Lega. Vede, io poi ho un'idea del voto che è assolutamente laica. Non è che se io voto una volta per la Lega, cosa che ho già fatto peraltro in altre occasioni. Cioè, se io voto per una volta significa che c'ho il timbro qua. Tum, tum, adesso lo voglio far sentire, il botto del timbro sulla fronte. Cioè non è così, capito? Non è così. Sì, sì, ma per me certo. Il voto inizia e finisce nel momento in cui entro al seggio. Come a poker. Cioè, ma non, poi non cambia nulla, poi posso cambiare idea dopo un secondo, anzi spesso mi sono pentito di quello che ho votato un secondo dopo. Cioè, non è che sono timbrato a vita, bisogna smetterla di pensarla in questo modo. Ivan, allora, dica. Ah, dicevo, naturalmente c'è piena libertà di parola e voi ne siete grandi fautori, però io, che sono un ascoltatore compulsivo della vostra trasmissione, me l'ascolto e me la riascolto registratevi dicendo, sono giunto al limite della sopportazione con una categoria di ascoltatori che voi giustamente stimolate a far incazzare. Quelli che chiamano e dicono, ma quello ha detto che guadagna tanto, una vera vergogna, che pensi, come è successo con Dario Fo, non sa quanto paga di IMU, e via dice, è proprio un basta di Giannino, ti starebbe bene con questa gente. Quando è un ma politico... Ma quale gente? Io non ho capito. Dai, su chi quelli che chiamano e si indignano e si incazzano... Ah, per quanto guadagna per quanto una persona... Che secondo me a voi non ve ne frega assolutamente niente, però lo fate apposta per far incazzare questi soggetti qua. Che vi chiamano e sì. Proprio io un basta di Giannino per questi. Vabbè, che già mettono una tristezza. Lo mettiamo abbastanza. Sì, a me perché poi alla fine sono anche invidiosi, poi dipende. Sì, sì, invidiosissimi. Poi dipende, ci sono pure quelli che dicono, no, come Rossella che 200.000 euro. Lui ma lì anche... Rossella ha detto, però io sono un privilegiato. Sì, però ha detto che Monti l'ha rovinato, su. No, ha detto che mi ha tolto metà, però ha detto io in fin dei conti, in confronto sì, all'italiano certo, medio, sono un privilegiato. Dopo l'ha detto, dopo l'ha detto. Deve fare, si deve ammazzare. Ma no, Ivan, per me va simpatico Rossella, no, però a me va benissimo. Voglio difendere. No, a me va benissimo quello che ha detto. L'ha detto un po' per rimediare alla fine, però all'inizio sì, ha esordito dicendo. Perché vi conosce forse. Vi conosce. Può darsi, cioè, all'inizio ha esordito dicendo che a lui Monti l'ha un po' l'ha messo alle strette, l'ha messo in difficoltà, cose di questo tipo. Insomma, adesso tutto possiamo credere, tranne che sia stato messo in difficoltà dal. No, appunto, per quello che l'ascoltatore che si incazza perché quando è un politico che come quello che avete che era voi alla Porsche, non mi ricordo come si chiamava, non mi ricordo Calearo. Sì, quando Calearo. Uno dice una stronzata del genere è chiaro come l'acqua che uno si deve arrabbiare. Però quando lo dice Dario Fo, che dice io non so quanto passeranno. Vabbè, ma perché effettivamente suoi. Non lo sa, figuriamoci se sta a pensare. Io adesso c'ho il reddito più basso della terra, che faccio? Mi metto a chiamare, ma solo di uno squallido assoluto se sto lì a vedere quello detto che dichiara. Va bene, grazie. Renato da Roma, grazie Ivan, sempre da Roma. Renato, buonasera, dica. Ciao Cruciani. Vai. Senti, volevo fare i complimenti a David Barrenzo che è veramente simpatico. Oh, uno che chiama per fare i complimenti a Barrenzo, di solito chiama la gente e noi la vogliamo. Non ci provare, perché tu ogni tanto spesso lo tratti anche male. Lo tratto male, sì, quando come una spalla, invece non è una spalla. Ma chi ha detto che è una spalla? Ma chi lo sostiene? Tratti un po' la spalla, vabbè, dai. Comunque, indipendentemente da questa cosa, ci tenevo a fare i complimenti a David. Hai fatto i complimenti. A noi dei complimenti non ce ne può fregare meno. Grazie, però. Tanto ai Raudo e Landini ciao, hanno espresso solidarietà. C'è un comunicato di Landini che dice che vengo trattato peggio di un operaio di Pomigliano alle volte. Comunque. Vabbè, allora Renato, veloce, su. Sì, velocissimo. Io volevo dire che l'Italia sta immessa in mano agli italiani. Che purtroppo ci vediamo questo Berlusconi che continua a tirare fuori dal suo cilindro delle cose idiote e mette in crisi i nostri politici. È questa la cosa allucinante. Io non riesco a capire, lui sbatte i piedi e tutti tremano. Lo seguono nelle sue puntate. Solo questo volevo dire. Lo seguono siamo nelle condannati. Sue? Scusi, siamo nelle condannati. Lo segui nelle sue? Nelle sue puttanate lo seguono, sì. lo inseguono, cioè nel senso che loro lo dovrebbero lasciare stare, dovrebbe non esistere lui, cioè nel senso qualsiasi cosa dice lo dovrebbero lasciar parlare, invece lui si fa inseguire. Sì, ma ho capito, ma qual è il problema però? Scusi, se c'è uno capace di guidare la campagna elettorale, l'agenda della campagna elettorale, questo sarà pure un merito di Berlusconi, no? O no? Sì, sicuramente. Infatti, e allora, appunto, su questo non si discute. Guardi che alla vicenda dell'IMU, l'altra sera per caso, così mezzo addormentato sul divano, mezzo rincoglionito, all'una di notte, mezzanotte e mezza, eccetera, stavo addirittura vedendo Porta a Porta, caro Parenzo, Porta a Porta. Sì. Ma tu sei malato. Mi sembra l'altro ieri, non mi ricordo, c'era il mitico Antonio Polito. mito assoluto, il quale era porta a porta in collegamento da Pescara, il mitico Polito, il quale ha detto una cosa molto semplice: sì, d'accordo, sarà un'idea realizzabile, anche ridicola se vogliamo, quella della restituzione dell'IMU, però con tutte queste proposte che riguardano la casa, i proprietari di case, cosa vuole fare Berlusconi? Qual è l'operazione? Cioè vuole sostanzialmente far credere, vuole instillare dentro il mondo dei grandi, che è enorme, dei proprietari di case, l'idea che lui sia il grande difensore di questo mondo. Cioè, questa è l'idea di fondo, no? Che non è stupida. Cioè, sono qui io a difendervi, sono il vostro paladino, sono il paladino dei proprietari di case, i quali si sentono giustamente vessati per certi aspetti. E lui, che poi prometta delle cose che non può realizzare, è un altro discorso. E lui si fa vessillifero di costoro. Questa è la ratio che c'è. Vabbè, ma ci sarà il trucco. Ma lascia perdere adesso il trucco, non il trucco. Però è vero o no che gli altri balbettano su questi temi dicendo sì, modificheremo questo, però quelli più abbienti pagheranno, eppure Monti dice che... Invece Berlusconi dice io vi restituisco i soldi. Dunque, uno che si sente un po' sbalestrato, un po' colpito da questa roba qui delle tasse, eccetera, dice vabbè, qui c'è uno che ci difende a spada tratta. Questa ma è la sostanza. Ma la gente non dice così normalmente. Io non lo so, però potrebbe dire così. Comunque l'operazione, lascia perdere quello che è poi il risultato, l'operazione di Berlusconi è questa. Andrea da Pescara, buonasera. Andrea? Sì, dica. Sì. Dica. Allora, io ho chiamato per un motivo molto semplice, perché all'inizio della trasmissione, quando ho ascoltato la dichiarazione di Razzi, sono letteralmente sobbalzato sul sedile della macchina dove mi trovo, perché i tornei di tennis e di calcio non so se li ha fatti, non ne ho idea, ma l'aereo Pescara-Zurigo sicuramente non c'è. Io sono di Pescara, ieri per lavoro sono partito e sono andato a Zurigo, pure a 50 km da Zurigo, dove mi trovavo stamane. E che ha dovuto fare? Andare a Roma? No, in macchina. Però scusi, poteva andare a Roma a prendere l'aereo per Zurigo? Ma poi avrei dovuto prendere un'altra macchina per andare a 50 km. Vabbè, quello però sono affari suoi. Comunque non c'è il volo Pescara Zurigo, questa è la sostanza. Invece il primo ministro bulgaro lo ha portato, perché effettivamente si è visto e gli va dato atto a verità. Finalmente una notizia positiva. Pescara Zurigo, non dica che l'ha messo, perché non c'è. Se no io mi sarei risparmiato 1800 km di auto. Grazie. Ma qui abbiamo, per la felicità dell'ascoltatore che ci ha chiamato da Pescara e per tanti altri che oggi hanno fatto diventare il video con il manifesto elettorale di Antonio Razzi una sorta di culto assoluto, brutto o meno che sia, caro Razzi, buonasera. Buonasera caro grande Cruciani, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Razzi, lei è diventato un mito, lo sai, in pochi secondi, sì. Il suo manifesto, che, diciamo la verità, i ben pensanti la pigliano per il culo dalla mattina alla sera ma devi stare anche a quello. Ma lei ha fatto bene, ha fatto purtroppo l'invidia. Sì. Fa male, ma fa male a loro, a me non me ne frega niente. Ma chi è invidioso? Scusi Razzi, chi è invidioso? Ma ce ne stanno, guarda. Mi dica un invidioso. Molte volte si vede già dalla faccia che ti fanno, guarda. Sì? Ti credo che sono invidiosi, scusa. Uno che è stato eletto con l'IDV, poi passa con Berlusconi, riceve il premio di essere ricandidato, quello non è un premio, perché se io sono messo al numero 4, se mi avessi messo al numero 2, allora forse avevi ragione, perché magari era... Ma no, assolutamente, io credo che quello è guardare chi lavora, e chi lavora viene ricompensato, chi non lavora a casa. E lei che ha fatto? Credo, a casa deve stare. Scusi, e Razzi. Non lo devono votare i cittadini. D'accordo, lei dice di aver lavorato, giusto Razzi? Ci mancherebbe altro, possono controllare. Ma sto volo Zurigo-Pescara, ci dicono che non è stato istituito, lei ha detto... Ma adesso non c'è, ma è stato fatto per 4-5 mesi. Vabbè, ho capito. Era fatto di lunedì. E molti non viaggiavano di lunedì. Beh, ho capito. È stato inaugurato al mese di aprile, il mese di aprile del 2005. A settembre, appena dopo le vacanze, è stato chiuso perché non viaggiavano più della metà dentro l'aereo. Ho capito, però non c'è da vantarsi di aver messo un volo, di aver contribuito, se mai fosse vera questa cosa. No, io l'ho fatto, ma dopo lo devono mantenere loro. Guarda, tu sei un grande caro Cruciani. Dici. Io credo che che queste cose tu lo sai. Ho capito, ma innanzitutto anche i radioascoltatori, perché che bisogna è capire? Chiaro che il, mantenere un volo costa. È chiaro che se una, la ditta che ha sì. messo il volo, che non mi ricordo adesso, ma una ditta svizzera, manco te ricordi, sì. non la Swiss. Non la Swiss. Ma tu nel 2005 che facevi, scusa Antonio? Io ero presidente della Federazione degli Abruzzesi e ero in Svizzera. Eri in Svizzera, hai contribuito a portare, a portare questo sì. volo. Vabbè, sì. quello nel 2005, non è che riguarda la tua attività da parlamentare però, Antonio. No, no, con la mia attività da parlamentare no, assolutamente. E perché io dici dico, in questo appello che hai fatto, perché dici no. in questo appello che hai fatto hai contribuito a portare il volo Pescara? No, io ho detto che quello lo ho contribuito allora a farlo. Ma non c'è da vantarsi, poi l'hanno tolto perché non c'erano passeggeri, scusa. Ma mica la colpa è mia. Ho capito, hai fatto una cosa che non serviva. Ho capito, tu hai fatto venire il volo, non ci andava nessuno su sto volo. Io adesso l'impegno mio nella campagna elettorale, visto che sono sì? eletto, e qual è l'impegno? Qual è l'impegno? L'impegno è quello di lavorare per la mia regione. Perché lei sa bene vabbè, quello tutti, tutti va bene. Tutti gli abruzzesi che vivono all'estero sì. amano la loro regione più che mai. Ma lo perché non ti prendi veramente. Perché non ti prendi Rocco Siffredi come testimonial, che è abruzzese pure lui? Chi? Rocco Siffredi, lo conosci? Ah, rivista, così l'ho visto una volta, ma non sono qualche di Ortona, dove vive anche mia sorella. Qualche quindi... filmetto l'hai visto su Antò, dai. No, io assolutamente no. E come no? Qualche filmetto. Ho visto una manifestazione lì a Pescara, ma non più di tanto, ecco, no? Comunque, vabbè, il volo Zurigo Pescara, scusami Antonio, il volo Zurigo Pescara, loro Zurigo Pescara, diciamo la realtà. Loro Zurigo Pescara non c'è più. Dunque, è inutile vantarsi. Non c'è più. È inutile vantarsi quello... di una cosa che non c'è più, ma ste partite di calcio. L'hai fatte per davvero ste partite di calcio e di tennis? Come no? Io la partita di calcio che era il 6 novembre del 2009. Che si sappia. Ed è venuto Borisov della Bulgaria, partita di calcio. Tra i parlamentari italiani e i parlamentari della Bulgaria. Ammazza, e il ricavato era a favore dell'Aquila, a favore di Camarda, un comune periferia dell'Aquila. Certo. Purtroppo ci sono stati nemmeno 50 spettatori. Quello che ci pure questo fallimento pure questo. Erano bulgari. Ma 50 bulgari, i miei soldi l'hanno portati almeno no, sti bulgari. No, e quelli io non ho nemmeno visto. Io so solo che di tasca mia ho speso 6.000 euro. Io quasi mi conveniva dare a una famiglia aquilana quei 6.000 euro, avevo fatto più bella figura. Ma allora perché ti vanti di avere fatto organizzato queste partite in questo manifesto elettorale? Mi vanto di averlo fatto, per il bene della città dell'Aquila. Il bene della città. Ma spiegami una cosa, ma invece le partite di tennis? Partiti di tennis, ho fatto anche tante partite di tennis lì a Francavilla al Mare. Sì, e che c'è? Perché c'è? Ma c'è bisogno di dirlo? Esclusivamente per portare gli svizzeri, e non perché c'erano svizzeri, austriaci, spagnoli, cechi. A che fare? Erano lì, amici dalla Svizzera, ma per fargli conoscere la mia regione. Perché ripeto, chi vive all'estero. Ma tu sei una sorta di una sorta di ambasciatore itinerante dell'Abruzzo nel mondo, questa è la realtà, diciamola tutta. Ma non solo io, ma tutti gli abruzzesi che vivono. No, ma tu sei come dire, ti senti il rappresentante degli abruzzesi che vivono all'estero. Io l'ho fatto per tanti anni con amore e con tanta felicità. Hai capito, Parenzo? Io ho capito, mi sono annotato su un foglio bianco i grandi risultati dell'attività parlamentare dell'onorevole Razzi e il risultato è zero assoluto. Parla bene, che non si sente, non si sente niente. Lei deve saper leggere e vedere su intranet della Camera e vede tutti i lavori fatti da me e tutte le interpellanze fatte, tutte le proposte di legge e tutti i question time e poi puoi parlare, ma non puoi dire niente finché che non sai niente e non hai visto niente. Hai capito? Informati prima, Parenzo. Impara a informarti prima, tanto c'è lì alla Camera, mica è nascosto. Per fortuna è aperta al pubblico. Informati sull'attività parlamentare, informati prima di parlare di Razzi Mara, Parenzo, informati. Ma quale attività parlamentare? Ma mi facci ridere. I bulgari, un disastro. Il tennis, niente. Ma dove stai parlando? Scusami, Davide, dove stai parlando? Che non si sente niente. Dove stai parlando? Da dove stai parlando? Me lo spieghi? Sto tornando a casa, sono sul muro torto. No, ho capito, però urli al telefono e si sente malissimo, non lo so, se uno deve sopportare questa cosa. Sono sul muro torto. No, adesso si sente, stai calmo. Allora, tu dici fallimento del volo Pescara che non è andato bene, tennis, calcetto, men che meno, dice che c'è da vantarsi? Bulgari zero. Ma vedi, invece si deve informare bene, anche sì. domandare solo gli alberghi che sono a Francavilla e che sono a Montesilvano, io li posso fare pure i nomi. E che c'entra gli alberghi? L'albergo, il San Marco a Francavilla, il Gran Hotel Adriatico a Montesilvano, solo loro che vi possono rispondere quante persone ho portato. Ah, perché lei ha portato i turisti. Ma lei cosa ha fatto che sta parlando? Ma sta al muro torto. Non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Bravo, digile, caro Giuseppe. Questi mangiano e beve e non sanno manco da dove arrivano, capito? Non mangiano e beve e non sanno manco dove arrivano i soldi. Scusi, però è contento Parenzo? Vero assoluto. Parenzo, no scusi Razzi, lei sì. È contento che... Vuol dire, adesso diciamoci la verità, lei è in una buona posizione lì in Abruzzo, no? Dicendo la verità, tu sai benissimo, caro, che io dico pura verità, anche sul libro che non so se l'hai letto, Le mie mani pulite, però tutto. E lì è scritto tutto pura verità. Sì. Io è chiaro che sono non so se vengo eletto, ma non lo so. Vabbè. Dovremmo vincere. Ci sono ottime possibilità. Il PDL deve vincere in Abruzzo, perché è l'unico che può risollevare l'Abruzzo è Berlusconi. Ma che c'entra? Quello lo devono capire tutti gli abruzzesi. Ma all'Aquila non lo possono vedere, Berlusconi. Ma come non all'Aquila lo possono vedere? Se grazie a Berlusconi sono in pochi mesi alle baracche erano. Ma se ci sono ancora i terremoti in Italia che stanno ancora nelle baracche, invece all'Aquila non ci sta più nessuno, tutti hanno le case. Scusi, io sono andato personalmente. Scusi, anche Razzi, ma Berlusconi per lei chi è Berlusconi? È un messia mandato da chi? Da Dio, che sta salvando l'Italia e può salvare anche l'Europa, non solo l'Italia. Pure questo l'Europa. Devono capire gli italiani. Ma l'Europa anche può salvare Berlusconi? Può salvare anche quello, perché è l'unico dei 27 che è intelligente. Ecco perché c'hanno invidia, la Merkel ce l'ha invidia di Berlusconi, perché è uno che capisce più di lei. È vero che Berlusconi una volta ha detto dalla culona inchiavabile o no? Ma io non l'ho sentito. Però ci sta tutto, però, no? Però se l'ha detto vuol dire che l'ha visto bene, non è che... No, l'ha visto bene, adesso questo speriamo di no per lui. Abbiamo riunione, io non lo so, però devo dire che solo Berlusconi è un grande genio, anche all'Aquila, per esempio, che ha fatto il G8, sì. Chi ce l'ha portato? Io in quel tempo lì non ero con lui, ma l'ho chiamato e gli ho fatto un articolo su un giornale, l'ho definito come l'Archimede della politica. L'Archimede della politica, un attimo solo. Portare i grandi capi di Stato lì all'Aquila. Certo, un attimo. L'Aquila se le deve ben mettere in testa. Ma dovrebbero fare un monumento, aspetti un attimo, ho la pubblicità, torno subito, ragazzi. Se ti piace cebolla, prende cebolla, se no becandi. E basta di mangiare kebab con le cipolle, Parenzo, smettila, su. Ma stai male poi, stai male col kebab, stai male. Mangi i prodotti abruzzesi che sono genuini. Bravo Cruciani, tu lo sai, è meglio mangiare una bella... Caro Razzi, ma noi dobbiamo andare una volta a pranzo fuori a Pescara, io ho la famiglia a Pescara. Allora quando vieni ti porto a mangiare un bel ristorante, si chiama il Melograno, Sagna e Fagioli, sono i migliori al mondo. Lasagna e Fagioli? Ma dov'è questo Melograno? A Pescara? Sotto Miglianico, facciamo la pubblicità pure, il Melograno. Sotto Miglianico. Consigliato dall'onorevole Razzi. Perfetto. Se vai a mangiare lì, sicuro che... A nome tuo? No. Posso andare? Sì, puoi andare anche a nome mio. Che ne so, magari mi tirano una pietrata dietro se a nome tuo, no? No, assolutamente. Anche perché tu mi conosci, caro, io sono molto corretto e educato con tutti. Io rispetto anche quelle che sono contro. Figuriamoci. Tranne Barbato. Beh, quello ti ha fatto un video dove tu dicevi voglio restare. Io il 14 ho pensato agli cazzi mia, dicevi. No, ma vedi. Mi fottevano la pensione. Queste cose non la... Io per esempio, anche al più grande nemico non avevi mai fatto una cosa del genere. Ma purtroppo non tutti sono uguali. Siamo purtroppo persone differenti. Allora non ci possiamo. Non siamo tutti uguali, questo è il bello che il Signore non ci ha fatto tutti uguali. Ecco perché. E lui com'è? Lui com'è il signor Barbato? Non lo non l'ho visto più. Sei contento? Sei contento che è fuori dal Parlamento? Ma io non è che tanto, io non ci tratto più, non ci parlo più, a me non mi interessa se sta dentro o fuori. Non, però scusa, sei anche contento? Non sono preoccupato di lui. Sei contento che la pensione è arrivata? Dai, su, vitalizio ormai c'è, è acquisito. Guarda, che sei contento, devi essere schietto, guarda che non è un dramma, dillo. Io sono contento che ho quello svizzero, che io ho lavorato 41 anni in Svizzera. Vabbè, quello ce l'hai, però c'è pure... benissimo. Sì, certo, però è anche quello del Parlamento italiano ormai, dopo una legislatura intera. Quello... Io credo che chiunque mira arrivare alla pensione. Dopo magari c'è da goderselo con la salute. Quello è dopo. Io credo che tutti gli italiani... Tu quanti anni hai, Antonio? Guarda, fra poco, il 22 di febbraio, nella chiusura di campagna elettorale, faccio 65 anni. Dunque, tu mi dici che se non sono eletto, dal giorno dopo posso prendere la pensione? Io vado in Svizzera. No, d'accordo, però la pensione della Camera, tu, avendo 65 anni, la puoi prendere, perché c'è stata la nuova normativa, se non mi sbaglio, poi sono cose complicate. Sì, la puoi prendere dal giorno dopo, giusto? Ringraziando il Signore che mi fa stare bene di salute, almeno lo posso... Ho raggiunto un obiettivo. La pensione della Camera, del vitalizio della Camera, su. Guarda, sinceramente, guarda, ti dico, te lo dico di pura verità, sì, che io non lo so nemmeno... Io mi sto interessando adesso a riempire i formulari, quello della Svizzera. Per la pensione, dici? Perché quelli sono 41 anni di duro lavoro. E vabbè, quello è un altro discorso. Tu lo sai, perché sei scritto anche nel libro. Sì. Ho lavorato Natale, Pasqua, Capodanno, turno di notte, turno domenica, non c'è stato mai festa. Certo. Ho lavorato, me lo sono guadagnato. Io credo che quello, tutti quanti nella vita, chi ha lavorato, quando arriva all'età della pensione, se lo vogliono godere, sperando che il Signore lo faccia bene di salute. Quello sempre, la salute prima di tutto, altrimenti uno crepa, altro che pensione della Camera. È inutile che arriva la pensione il giorno dopo uno muore. Tocchiamo ferro, però. Questo è Monsieur La Palisse, come direbbe, no? Monsieur La Palisse, caro Antonio. Comunque, caro... Però scusami, Antonio, però... Se vogliamo cambiare l'Italia, gli italiani devono votare... Devo votare Berlusconi. Io che amo l'Abruzzo, non voglio che l'Abruzzo diventi una regione rossa. È sempre stata una regione bianca. Ma non è vero, bianco azzurro come il Pescara. Ma non è vero, scusa Razzi, però all'Aquila dovrebbero fare un monumento a Berlusconi, sai, quei busti. Ma sicuramente, guarda, in pochi mesi già aveva dato tutte le applicazioni. Ma dillo, proponi una statua di Berlusconi, un bel busto, sai, quel busto di bronzo? Ma guarda, io sinceramente proprio è da farlo. Anzi, io credo che gli aquilani, sicuro che molti aquilani lo adorano, perché veramente... non c'è dubbio. Ma io credo che nella città vecchia... Sì. Che ci vuole un po' di anni, io credo che... Sì. Comunque il monumento per Berlusconi il monumento va fatto, dici tu. Io credo che se gli aquilani dovrebbe essere riconoscente, perché più di 30 volte, mi sembra 29 volte preciso, è andata all'Aquila. Ma 29. Chi mai un presidente del Consiglio poi non è detto che va tante volte lì a vedere anche a motivare gli operai che lavoravano per la ricostruzione. Ma non è detto che se uno va solo lui è un grande genio. Io credo che solo lui poteva fare questo. Capito, Parenzo? Io ho capito una cosa, perché solo una persona come Berlusconi può fare quello. Capito? Dobbiamo ringraziare che in questo millennio c'è Berlusconi, se no altrimenti eravamo fregati tutti. Il millennio addirittura, dice lei. Io ho capito questo. Forse dobbiamo aspettare ancora un altro mille anni che arrivi un'altra persona come Berlusconi. Come Berlusconi. E con tutto questo non c'è manco posto sicuro in Abruzzo. Noi non ci stiamo, però... noi siamo tutti morti là nella cassa da morto. Via, però... Ecco, se godiamoci in questo momento che lui c'è, meno male che Silvio c'è. Scusi, però Razzi, ma lei la pensione esatta che prenderà se non dovesse essere eletto adesso, lo sa la cifra? No. Ma come non la sa? No. Su, però siamo trasparenti, guarda, dai. Ti giuro. Però dimmelo, Antonio, mi merito, scusa Antonio, mi merito la pensione da parlamentare, se non sono eletto, dillo questa cosa qua, trasparenza al massimo. Credo che sono tutti quelli che hanno fatto il deputato, perché io l'ho fatto con intensità. D'accordo, tutti quelli... Alle 8 la mattina, alle 8 e mezza, ero uno ad entrare nella Camera dei Deputati. Ci mancherebbe pure. Ed ero uno degli ultimi a uscire. Sì. Io credo che chi si prende a cuore un lavoro, perché anche io, tu sei un grande della radio. Sì. Perché sei un grande della radio? Perché tu ami il tuo lavoro, e chi ama il suo lavoro E tu, sei un grande del Parlamento, dico, allora? Tu sei un grande del Parlamento? Io, anzi, visto che non sono laureato, sì, sono felicissimo di quello che ho fatto. Sei meglio di quelli laureati, sei meglio di quelli laureati in Parlamento. No, Parenzo, non, se non intervieni, non dici niente, io, Parenzo. No, io sto cercando di intervenire, ma sono, c'è questo fiume in piena di razzi. Che voglio dire, l'unica cosa da dire è che lui stava tutto il giorno in Parlamento perché non aveva un cazzo di posto dove andare, perché lì tanto mangiava con 2,20 euro, c'era l'aria condizionata d'estate. Ma chi gliel'ha detto quelle che si mangia con 2,20 euro? Bene di 20 euro, se vai, perché quello è il paese, non ti fanno manco entrare nel ristorante della Camera dei Deputati. Bene di 20 euro, non ti fanno manco entrare. Hai capito? Ma sono tutte fesserie. Guarda, molte volte i cittadini devono sapere le cose. Sì, è certo. È gli cittadini che vogliono sapere le cose, pura verità. Devo chiedere a me che io gli dico tutto, non c'è problema. Scusi, io ma perché? È evidente che per te quello lì è il paese dei balocchi, è come Lucignolo che porta via, è il paese dei balocchi per te. Quello lì è il paese dei balocchi. Però razzi, Anto, dimmi la verità, perché tu sei, non dico sicuro, però insomma probabile, almeno così lo davano i giornali, e il povero Scilipoti invece è incerto, è molto più incerto. No, guarda, io sono soddisfatto perché... Ma voi siete fratelli, si può dire che siete fratelli di sangue? Ma io sono fratelli con tutti. Con Scili. Siamo amici e ci mancherebbe altro, mica... Ma io sono amico anche con quasi tutti i parlamentari, mi raccomando. Ma cos'è questa cosa qua? Cos'è sto rumore, Parenzo? No, adesso se per ma che sta ancora al muro torto? Guarda, io sono parcheggiato a Rivisondoli. È un commento alle tue analisi politiche. Razzi. Ha tirato il cesso. Guarda, io so che Parente è anche bravissimo. Complimenti, perché siete una coppia perfetta. No, per carità. Come si dice in coso, Cristo prima lo fa e dopo la coppia. Quello purtroppo lei ha ragione. Dio li fa e poi li accoppia. Scusi, volevo sapere però, in conclusione, Razzi, guardi, io me ne fotto della par condicio, venga pure un'altra volta qui alla Zanzara, io dico grande pubblicità, Antonio Razzi candidato in Abruzzo eccetera, me ne fotto totalmente. Stai rovinando il PDL in Abruzzo. Scusi, guarda, tu mi conosci bene, che sai che io sono uno che quello che penso lo dico col cuore. Ecco, allora, gli omosessuali, verità. La questione degli omosessuali, Antonio, dimmi subito, guarda, una cosa, dimmela subito, veloce. Guarda, io te lo dico papale, sì. Ecco, così. Io non so, purtroppo, tra virgolette, sì, che il Signore ha fatto, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Ah, aspetta, allora, che questo sta tirando il cesso, aspetta. Tanto. Allora, sì. Noi io credo che la famiglia è fatta di un uomo e una donna. Sì. Però, se due uomini o due donne vogliono vivere insieme, sì, a me che me ne frega, possono stare insieme. Ma quello ci mancherebbe altro. Cosa mi interessa? Io credo che è anche... E io nemmeno ci rido, perché se si vogliono bene stanno insieme. D'accordo, quello per però, fortuna è consentito. Arriviamo che deve o che vogliono magari avere un bambino o una bambina, non avere, perché non lo possono avere. Non lo possono avere su questo, non c'è però, dubbio. Magari prendere non a noleggio, ma quasi. Ma insomma, non va bene. Perché, anche perché se un bambino va a scuola e vede, e magari tra bambini, sai com'è, siamo stati tutti bambini, e allora magari dice... E come? C'ha due papà e dove sta la mamma? Insomma, e dove sta la mamma? Oggi i bambini capiscono tutti. I bambini non gli puoi raccontare come, ma poi entrano la magari... favoletta che veniva col piccione viaggiatore. Ma entrano in camera da letto. Non viaggia più. Scusa, se tu vedi due che si baciano per strada, due uomini o due donne, che effetto ti fa? Sinceramente io mi giro la testa perché non mi piace vederlo. Non ti piace, però, non ti piace. Però, cavoli loro, non me ne frega. No, certo, va bene. Ma scusa se un attimo. Se loro gli piacciono così, ecco, su questo... Se te piace così... Se loro si vogliono bene, che stanno insieme. No, certo, ti fa un po' schifo. Ti fa un po' schifo però l'idea ti fa un po' schifo, diciamo la verità. Cioè l'idea che due uomini si baciano per strada. Non è bello vederlo, non è bello vederlo, no, perché no. Io credo che se uno si vuole bene, vedi che stanno in casa e se la fanno in casa. Io non è che io sono sposato da 38 anni e ho sempre la stessa moglie. E vabbè, quello che c'entra. E ho due figli e due nipoti. Beh, qualche cosa l'avrei fatta. Non è che io con mia moglie, per far vedere alla gente che le voglio bene, me lo devo baciare per forza per strada. Cioè, vabbè, quello... Ho capito, va bene. Però scusami, cioè, facciamo sì. vedere alla gente che noi ci vogliamo bene. Ma il bene gliela mostro in casa, non che sì. devo far vedere alla gente per strada. Certo, scusi un attimo Razzi, ma mi è venuta in mente un'altra cosa in realtà. La Svizzera, no? Ma non è che lei può intercedere per questa storia di Berlusconi e dell'Imu con la Svizzera, per questo accordo da cui pigliare i soldi, ma eccetera? Io credo, come no? Quello è una cosa buonissima, perché ci sono tanti miliardi, 200, 300 miliardi di euro che è in Svizzera. Beh, si fa un accordo con la Svizzera. Un'altra genialata, ecco, di Berlusconi, un'altra genialata. E quello è un altro genio, perché quello altro genio, comporta certo. proprio di levare l'Imu e addirittura di restituirli. Scusi, ma perché? Perché 2012, quelli che hanno pagato l'Imu certo. nel 2012. Ma scusi, sempre. Ma perché lei non fa da ambasciatore per questa cosa, da intermediario? Figurati. Ma io posso andare tranquillamente a Berna, alla Bundes... Dove? Che... Come si chiama? A Berna, al Come Palazzo si chiama? Federale. La Bundes... Vado tranquillamente perché... almeno mi conoscono. Ma perché non va lei come ambasciatore? E parlo svizzero, posso parlare con loro, capito? Tranquillamente. Se me lo chiede il presidente, io ci vado volentieri. No, ma scusi, lei conosce la Svizzera. Conosce la Svizzera, conosce la tutto. Figura. La Bundes, come si chiama là? La Bundes? No, la il Palazzo Federale. No, ma in tedesco, no, come si dice? La Bundes, quella è in Germania. Ah, il Palazzo Federale. Quella è in Germania, sì. Bene, però. Il Palazzo Però scusi Razzi, lei è un esperto di queste cose della Svizzera, è tutto, perché non dice a Berlusconi ti ci porto io Silvio Svizzera a fare sta trattativa? Sì, è la volta che la però Svizzera prima, la guerra, prima, guarda. Prima i cittadini italiani devono dare il 51% a Berlusconi. Vabbè, quello non c'è, devono dubbio. Votare PDL, quando arriviamo al 51%, sì. per cento, 51%, sì. che agenda hanno accettato. Ma lei che farebbe? Vorrebbe fare ministro? No, sottosegretario agli esteri, però sì, scusi. Interessarmi degli italiani all'estero, quello mi sta a cuore, perché io sottosegretario con delega all'italiano all'estero. No, io non devo fare nessuna. Vabbè, nessuna, allora qualcosa. Però rappresentare il PDL all'estero sì. per il presidente Berlusconi, se non lo farei volentieri. Cioè, perché... la Svizzera, la trattativa, accompagno Berlusconi Svizzera a fare questa trattativa. Visto che parlo sì. il tedesco e lo spagnolo, così magari posso tranquillamente dialogare con i parlamentari di questi della Svizzera, certo. Della Svizzera no, ma per dire per questo accordo non c'è problema. Parlare con tutti quanti, chi meglio di me lo può conoscere? Ah, non c'è dubbio, ci ho vissuto, figurati. Grazie Antonio. Comunque, a presto. Ecco, io approfitto, caro. No, approfitto, aspetta un'altra volta. Dai, guarda, c'è tempo, invita pure chi? Il tuo amico. Aspetta, dov'è che stavi, Parenzo? Scusa, facci sentire un attimo. Dove stavi? Parenzo, dove stavi? Dove stavi? Accesso. Aspetta, dove stavi? Un secondo, eh? Aspetta, dove stai? Allora, invito tutti e due in Abruzzo. Sì. Razzi? Beh, dimmi. Mi senti, Razzi? Ti sento. Questo è per te, amico mio! Ha tirato. Comunque, hai tirato l'acqua del cesso. Bene, comunque ti invito ugualmente a tutte e due a venire in Come Abruzzo. Come buono lei. E no, ma sai cos'è la cosa più bella, Razzi? Però voglio ripetere la cosa più bella qual è? Aspetta, che c'è? Gli abruzzesi sì. non devono dimenticare mai chi è Silvio Berlusconi. No, non lo dimenticheranno, non c'è dubbio. Davide, dimmi. No, la cosa più bella è quando tu tiri l'acqua, ma il rumore più bello non è quello iniziale. Attento bene, voglio fartelo analizzare per qualche... Beh, è bellissimo quando alla fine c'è il rumore del gorgo proprio, cioè della cosa che va veramente giù. Senti Razzi, senti che bello, senti, aspetta. Concentrati sulla parte finale, non sullo scroscio iniziale, la parte finale, il glu, sentilo. Dov'è la fine? Ah, ecco, il gorgoglio finale. Ecco. Grazie Antonio, questo ciao. Porta bene al PDL. Grazie. Pubblicità, a voi, statua. Statua all'Aquila. Lanci questo appello. Statua all'Aquila per Berlusconi. Tu sei come una piccola zanzara. Berlusconi, se non sbaglio, Berlusconi da Mentana. Sono tutte storie queste qua. Bene. Siamo circondati da una canea di cialtroni che non fanno altro che dire stupidaggini. Allora, sono 4 miliardi e basta, su 800 miliardi che costa la macchina dello Stato in un anno. Si trovano da diverse parti. Abbiamo pensato a un fatto anche di immagine, di toglierlo da quanto potremmo ricavare, da dei capitali di cittadini italiani che sono situati in Svizzera. Ci sembrava una cosa logica e di immagine di fare così. Comunque sono 4 miliardi una tantum che si possono ricavare da quella fonte. Immediatamente c'è la cassa depositi e prestiti disponibile per la liquidità, e si possono anche ricavare dagli interventi di riduzione c'è addirittura spesa. Vabbè, Berlusconi sta dicendo le solite cose, c'è addirittura un cronometro sulla destra. Tu Parenzo non lo stai vedendo, dunque non puoi fare la tua solita opera di lecchinaggio nei confronti della Sette, ma c'è una specie di cronometro, perché Mentana credo abbia messo quasi ironicamente una sorta di timing per le risposte di Berlusconi, eh. No, non è così. Spiegamelo tu, allora, che non ho capito un cazzo. Io ho parlato con Enrico, l'amico Enrico, che saluto e ma ringrazio. Finiscila, dai, su, che mi dà fastidio. Per dentro il telegiornale ogni candidato premier avrà 5 minuti a disposizione, anche Ingroia ieri aveva 5 minuti. Ma che significa 5 minuti per ogni risposta? No, in tutto, la presenza nel telegiornale ogni giorno, ieri ha 5 fatto minuti, Ingroia. Vabbè. Ma sono finiti oggi adesso, vediamo un po' che succede. Aspetta, 4, 3, tanto quello la che dice uguale, 2, 1. L'IMU alle famiglie che l'hanno pagata. Dico che l'IMU ha portato la nostra industria edilizia a avere un crollo che ha portato tutta una serie di altre industrie. Morale, 360.000 disoccupati. Niente, non ce la fa a rispettare, Valenzi. 190.000 dalle industrie collegate all'industria edilizia. Scusi, come si chiamerà se non si chiamerà Silvio Berlusconi? E Silvio Berlusconi si chiamerà Giulio Cesare, va bene? Senta, le voglio chiedere una cosa. Beh, era fuori, finito, non era finito. Come ne ho fatta una ieri a Ingroia. Se lei dovesse scegliere nella situazione difficile che si potrebbe creare dopo... All'inizio credo che Berlusconi abbia detto, ma non aveva messo Rossella al posto suo? Darlo a Monti, a chi lo darebbe? Io darei il sostegno della nostra coalizione soltanto in caso di modifica della Costituzione a chi fosse d'accordo con le modifiche che noi abbiamo già spiegato. Vabbè, Berlusconi, rispondi, dai. Di mio lo darei a chi è disponibile a votare con noi le modifiche che sono indispensabili per fare del nostro paese un paese che può decidere. Grazie a Silvio Berlusconi. Domani, vi ricordo, tocca a Pierluigi Bersani. Bene, questa è la Zanzara, 800-24-0024. Paolo da Ferrara, buonasera. Buonasera. Vada. Ah, io telefonavo perché vedo un 10-15% di share per Mario Monti, ma quando viene qua da noi in Emilia non è che prende tanti voti, prende uova. L'episodio adesso prende uova. Non è che non mi sembra che il tour elettorale di Monti sia contraddistinto da gente che lo prende d'assalto. Certo, non ci sono folle oceaniche, ma nemmeno incidenti particolari. Insomma, diciamo no, perché non fanno notizie, non le dicono. Poco dopo il terremoto, ma vengo all'ultimo caso di una settimana fa, l'onorevole Monti è venuto nelle zone terremotate e dopo il lancio di uova, io mi volevo collegare a quel dottor professore che prima ha detto che se lo trova per strada gli sputa, dovrà allenarsi perché l'onorevole Monti è ben allenato, infatti ha evitato l'uovo e gli è arrivato in faccia purtroppo al sindaco di Camposanto, che non c'entrava niente, perché se dall'alto non gli arrivano i soldi, qui da noi si continua a sbubacciare. Però quando succede un terremoto uno se la piglia sempre col governo in carica, perché guarda, che c'è Parenzo? Io sono stato la settimana scorsa a raccontare le storie degli amici di Mirandola, devi salutare invece il capo te lo sei scordato perché sei stato preso da altre cose non so quali, ma il capo dei vigili urbani di Mirandola, quello invece devi farlo pubblicamente. Ah, assolutamente, la verità non è il capo dei vigili, perché sennò ma è uno dei vigili più valenti, il signor Canzio, il vigile Canzio. Vabbè, a me l'hai presentato Canzio. Come capo dei vigili urbani, hai detto la solita balla, come al solito. Era il capo, era un vigile, non è il comandante, come il Canzio dei vigili urbani di Mirandola, sapendo dalla Zanzara, grande ascoltatore, mi dice tutte le volte devi lottare contro quel... devi lottare, io lotto infatti Canzio, lotto per te, lotto per parlare delle tue storie, dei tuoi concittadini di Mirandola, da oggi saranno protagonisti della Zanzara, ogni giorno daremo un bollettino su come vanno le cose a Mirandola, ogni giorno, caro Canzio, Canzio è venuto nel collegamento di in onda apposta, perché aveva sentito che ero a, a Mirandola, quindi si è informato con tutta la città dicendo: ma veramente viene Parenzo a Mirandola? Io lo devo abbracciare. È venuto sotto la pioggia, mi ha abbracciato, mi ha bagnato anche la giacca, ma mi ha abbracciato. Canzio, io ti voglio bene. Canzio, io ti voglio bene. Vigile urbano di Mirandola. Vabbè, poi detto questo, che volevi dire a Paolo da Ferrara sulla questione? Questo Paolo ha ragione, perché lo Stato ha abbandonato i cittadini terremotati di Mirandola e tutto quel territorio lì. Ci sono persone che vivono ancora nei container, ogni container costa 70.000 euro, hanno il contratto di un anno, cioè possono stare un anno dentro questi container e poi devono trovare un'altra sistemazione, e udite udite, questi cittadini che hanno perso tutto devono pagarsi la luce e il gas, la luce e il gas devono pagarsi, capito? Vivendo nei container, ci sono persone, 5 persone. Vabbè, Paolo, che vivono... fammi sentire Paolo, Paolo. No, ma quello che il signor Parenzo non sa, ed è strano, nell'Aquila, quando c'è stato il terremoto, per l'amore del cielo, siamo tutti italiani, non hanno fatto la sospensione del pagamento delle tasse, eccetera, eccetera. Ecco, qui da noi il 31 dicembre. Sì, lo so, lo so. Va bene, Paolo, grazie, grazie. Ah, sì, sì. Grazie, grazie. Well, now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. Beh, paradossalmente si potrebbe dire: bravo allora Berlusconi all'Aquila, cioè male Monti e bene Berlusconi per tutti i provvedimenti sugli aquilani, secondo il ragionamento dell'ascoltatore. Comunque, vabbè. Mario da Roma, buonasera. Senta, soltanto riferire un episodio a Roma. A noi piacciono gli episodi, basta che abbiano senso, altrimenti le tiro una pietrata in testa. Ma la fa dire. Sì, allora, dica, dica. Tredicesimo municipio, stazione della metro, le 9 di mattina. Sì. Due ragazze attendono il treno, quando il treno sta per entrare in stazione si abbracciano e si baciano sulle labbra. Sì, allora? Una signora vicina si mette a strillare. Una signora che stava fra le ragazze e il treno si agita maledettamente, per cui il treno riparte e le ragazze rimangono per terra. Una grande ressa, arriva un carabiniere in uniforme, si informa dell'accaduto e va a finire che una delle ragazze protesta violentemente, il carabiniere le dà un ceffone. Arrivano alla stazione dei carabinieri e le due ragazze fanno la denuncia. Quindi Michi viene, ha ragionissima. No, che c'è, Travendola parlava di Roma, mica dei carabinieri, abbia pazienza. Ha ragione. Però scusi Mario, questa è questa è interessante. Rispetto agli omosessuali. Questa è, a parte che, ripeto, qualsiasi episodio non è, a meno che non ci siano cose molto molto diffuse, non c'entra nulla con la città, può succedere ovunque. Non c'entra nulla. Secondo me è così. Donne che si sono messe a strillare come tanta pazza, perché due ragazze che cosa hanno fatto? Si sono baciate sulla bocca. Una poteva essere una russa. Voi sapete che i russi si baciano sulla bocca. Cioè, ah, per cui non è assurda. Per cui non è sicuro che erano omosessuali queste donne. No, no, non è sicuro, perché poi dopo c'è stata la denuncia, le radio locali di Roma hanno riportato l'episodio, però non è stato precisato che le ragazze erano omosessuali. Ma io non ho letto, non ho letto nulla di queste cose qua. Comunque Mario, no, solo sulla radio locale è uscito questo. Vabbè, faccio un appello allora alle protagoniste di questa vicenda di chiamare Radio 24, di mandarci una mail alla zanzara@radio24.it per raccontarci quello che è successo alla stazione Termini, secondo il racconto di questo signore. Buonasera. Grazie. Giuseppe, provincia di Enna, buonasera. Giuseppe? Pronto, buonasera. Sì, parli, dica. Sì, buonasera, sono Giuseppe, sono un attivista del Movimento 5 Stelle. Oh, andiamo! Praticamente da quando sono stati eletti, lei sarà pure attivista dei 5 deputati, stanno facendo tutto quello che non devono fare, praticamente decidono loro, non parlano. Non mi sento. No, ma è lei che ha la primo ha la radio accesa, prima cosa in assoluto ha la radio accesa. Secondo si deve dare una mossa però, Giuseppe, altrimenti ho chiuso, mi perdoni. Ho capito. Allora, quelli, il Movimento 5 Stelle eletti non stanno facendo nulla di quello che avevano promesso. Intanto hanno fatto l'inciucio con Crocetta. Non dovevamo allearci con nessuno. Prima i signori con Crocetta erano persone da dover direttamente giudicare, giustiziare, eccetera, eccetera. Hanno fatto l'inciucio perché stanno stabilizzando 80 portaborse della regione Sicilia. In controcambio hanno avuto la vicepresidenza dell'ARS. Sono persone, queste qua 80, che saranno pagate da 50, 100 a 120 mila euro l'anno in base all'incarico che avrà loro riconosciuto. Sono praticamente i vecchi portaborse istituzionali della regione. Però hanno dato i soldi indietro. No, no, i soldi li hanno messi in un fondo per andare a finanziare aziende di cui chiaramente loro controlleranno. Questa è una presa in giro, non riusciamo a poterla digerire. Si hanno trattato come popolo di pecore, non come cittadini a 5 stelle. Se vuole le faccio vedere tutti i filmati. Vabbè, mi scriva, Giuseppe. Che abbiamo fatto, sì, dove loro fanno il bello e il cattivo tempo. Benissimo, però si calmi un attimo, non sento poco. Allora, mi scrive una bella mail, la zanzara @radio24.it, mi dice tutte le nefandezze che secondo lei commettono quelli dei 5 Stelle eletti alla Regione Sicilia. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai, lei non dà tregua, sai, finché non punge lei tranquilla non sarà. Pomate a volontà e spray senza pietà. Beh, grazie Floris della frutta e della gnocca che mi hai fatto trovare in camerino. Ma sono cambiato perché la frutta non la mangio più. E la zanzara che punge e poi se ne va. Giova, senti, te mi devi inquadrare prima me. Poi io faccio il gesto che pulisco la sedia dove c'è seduto Giannino. Guarda, c'è anche qui lo scoppino. E poi Giannino, per favore, me lo mandi via, che mi fa tristezza, che sembra il nonno di Elisa di Rivombrosa. E mi inquadri quella gnocca in terza fila. E intanto dalla Gruber stasera, caro Parenzo, c'è la nostra amica Bocletti Buitoni. Ma io voglio dire una cosa, detto con tutto il rispetto, ma chi cazzo glieli fa quei capelli? Io voglio conoscere il parrucchiere della Borletti Buitoni. Adesso non rompa le balle che gli stiamo facendo una pubblicità pazzesca, sennò chi diavolo l'avrebbe notata questa Borletti Buitoni, diciamo la verità, no? Nessuno, stiamo facendo una grande pubblicità, dunque non ci attaccate, non ci rompete le scatole, voi dello staff, voi di Scelta Civica, eccetera. Grande pubblicità, però un'informazione, ma da chi va a farsi fare quei capelli cotonati, leggermente cotonati? Perché. Ditecelo, perché è piuttosto interessante. Intanto assomiglia a una certa signora, no? A una certa signora dal cognome, ricorda una certa signora. Ecco, contessa, a lei. Parte da 32 metri la Serbelloni Mazzanti, viene dal mare. Capovaro, posso andare? Vadi, contessa, vadi. Oh, era vero quello che raccontava l'ascoltatore da Roma. Due ragazze si baciano alla stazione, due ragazze di Acilia, un carabiniere le insulta, fate schifo. Questo è il titolo di un giornale che ci è arrivato tramite un ascoltatore, tramite Twitter, è una cosa imprescindibile ormai. Polemica sulla vicenda, la denuncia dell'associazione Gay Project, abuso di potere a sfondo omofobico. Poi non so se in realtà sia stato confermato, è successo a Natale che un carabiniere le avrebbe insultate, fate schifo, queste ragazze di Acilia che si sono baciate alla stazione. Beh, ce l'avevano già segnalato qualche mese fa, io me lo ricordo questo caso, sì. Perché ci telefonarono proprio in diretta per raccontarcelo, quindi non è una un episodio. Chi no, era? No, io mi ricordo che alla Zanzara, tempo fa, proprio sotto Natale. Ma non mi ricordo assolutamente nulla. Sì, guarda, sono sicurissimo. Già ci segnalano questo caso di ragazzi del Carabini, proprio mi ricordo l'episodio di qualcuno che aveva telefonato per raccontarlo, sì. Tu come al solito cinismo, traffico, borsa, e invece senti, allora Giannino dovrebbe scegliere però i suoi candidati un po' meglio. Senti il messaggio che mi ha mandato questo signore. Sono Antonio Balloreo, capolista in Abruzzo nel movimento di Giannino, e fin qui va benissimo per me. Quando Giannino sceglie le persone proprio metto la firma per la Camera dei Deputati. Voglio sfidarvi a darmi lo stesso spazio che avete dato al mio concorrente Razzi. Senti, a Balloreo non ci rompe le scatole, abbia pazienza, noi ce ne fottiamo di queste cose qui, cioè, ma hai sentito o non hai sentito? Cioè, mi sembra che sia sufficiente quello che hai sentito, no? Signor Balloreo, capolista in Abruzzo nel movimento di Giannino, su, abbi pazienza, non ci rompere pure. No, ma ci dovresti ringraziare. Balloreo si chiama? Sì, ma non. Sì, esatto, hai detto bene. Ci dovrebbe ringraziare, no, signor Balloreo. Signor Balloreo, di cosa vogliamo parlare del signor Balloreo? Di quello che dice Giannino? Per quello abbiamo Giannino. Scusi, signor Balloreo, detto con tutto il rispetto, sia detto però con tutto il rispetto. Basta, Pasquale da Lecce. Pasquale? Pronto? Sì. Pronto? Poi voglio sentire la Serbelloni di Andalmare. Pronto? Pasquale, dica. Ma io ho sentito prima Raggi per telefono. Sì, allora? Cioè, è una cosa allucinante, non c'ha più droga a prendere, più piccole cose. No, droga non credo, guardi, droga non ne prende. Oh, allucinogene di sicuro perché. Allora? Come si fa a pensare, se è questa la gente che mangiamo... Che va in Parlamento. No, già c'è stata 5 anni in realtà questa gente in Parlamento, quella che lei chiama la gente in Parlamento. Five years. Però scusi, però io dico una cosa, non è che se uno non sa parlare italiano, parla male, non può andare in Parlamento, cioè, dopo che è stato 40 anni in Svizzera. Dice le cose che dice, volevo dire. Quello è un altro discorso. Berlusconi in Messia, no? Lo so, Pasquale, cosa vuole che le dica? Che vuole che le dica? Genio, non nascerà mai nessun altro nel prossimo millennio, eccetera. È andata così. Francesco da Treviso, buonasera. Eccomi qua, buonasera, complimenti, siete bravissimi, mi diverto ogni sera. Però adesso volevo sentire da lei un parere. Basta che chiude, basta che lei mi chiuda la radio o che cosa a diavolo ha acceso la televisione, eccetera, io le dico tutto quello che vuole, però lei mi deve chiudere la radio e possibilmente prenderla e spaccarla. È possibile spaccarla? Qua. Certo, abbiamo chiuso. No, la spacchi anche, la butti dalla finestra. Sì, certo. Senta, no, prima lei diceva che è favorevole all'adozione dei bimbi da parte delle coppie omosessuali. Sì. Problema, io ho 3 figlie, sono per la libertà assoluta in tutto. Poi questo bambino o bambina andrà all'asilo, andrà a scuola, tu li accompagni, vai a prenderli a pallavolo, a pallacanestro... I compagni chiederanno come si chiama tua mamma e il bambino o la bambina dovrà dire Antonio. Come si chiama tuo papà? Si chiama Giuseppe. Secondo lei, Cruciani, che è intelligente e brillante, questo bambino cosa vivrà? Questa è una puttanata, secondo me. Perché una ma mi spieghi perché? Perché è una stupidaggine. È pieno di persone che adottano in altri paesi, non c'è nessun problema. Francesco, su, non mi faccia dire cose. Ma viviamo qua, Cruciani. Ma che vuol dire viviamo qua? Ma allora uno dice: beh, sì, però nel Medioevo. Ma che cosa vuol dire? Ma la maestra farà fare ancora il tema. Parlaci della mamma e del papà, dove sei stato domenica? Ma a parte che queste sono stupidaggini, non è che uno non fa una roba semplicemente perché la maestra fa fare il tema, ma che vuol dire? Ma sono ragionamenti assurdi. Comunque guardi, Cruciani, Francesco, al bambino dobbiamo pensare, sì, non possiamo, però, Francesco, guardi, tra l'altro io penso che sia assolutamente legittimo che uno è contro il matrimonio omosessuale, però non con queste argomentazioni, cioè questa argomentazione qui della maestra, che cosa pensano gli altri, la Biancofiore ieri ci ha detto che praticamente questi qua verranno presi per il culo tutta la vita, secondo lei, ma si rende conto che tipo di argomentazione è questa qua o no? Ma lei è la stessa cosa che dice lei alla fine, se uno mi dice io sono contrario perché penso che una famiglia debba essere tra uomo e donna e dunque non ci deve essere adozione per i bambini omosessuali, tanto di cappello, ma a me non mi va bene, ma non mi può dire siccome lo prendono per il culo oppure la maestra fa fare i temi sulla mamma e il papà allora non va bene, ma di che parliamo, su? Pronto? Cruciani, lei è intelligente, non mi può rispondere così, è una delle poche persone che ascolto e ritengo intelligente. No, però scusi Francesco, abbia pazienza, io ho detto che rispetto il fatto che lei sia contro l'adozione omosessuale, la cosa che non sopporto è l'argomentazione per cui non si può fare perché chissà cosa pensano gli altri, chissà come può crescere il bambino, chissà cosa farà in classe quando la maestra propone il tema dimmi di mamma e papà, sono stupidaggini, perché è provato dalla scienza, dall'esperienza, che è pieno di famiglie omosessuali in altri paesi in cui i bambini crescono normalmente, senza problemi, o con problemi che hanno anche problemi, che hanno anche bambini che crescono in famiglie eterosessuali. E che più di questo che devo dire? Non lo so. Onorevole Concia, che devo dire più di questo? Beh, stavamo per fare un applauso io e il mio collaboratore. Ma che devo fare? È sempre lo stesso collaboratore? Il mio collaboratore è innamorato di lei, ma insomma no, questo è un altro dettaglio. Comunque... questo l'ho detto io. No, questo è un dettaglio. Ma l'ho detto io al posto suo, ho fatto il discorso al posto suo, che ci sta a fare lei adesso qua? Senta sta Borletti Buitoni, la mitica Borletti Buitoni, voglio sentire la Borletti Buitoni. Capolista al Senato, ma nessuno di noi quando ha aderito alla lista civica ha dovuto firmare come un patto tra partiti. Quindi la mia è stata una valutazione molto pratica. Credo che la Lombardia non debba tornare a chi l'ha governata fino adesso. Credo che ci debba essere un totale cambiamento di rotta e penso che la lista civica di Ambrosoli non sia poi una proposta politica così distante da quelli che sono però, i temi nostri. Scusi, signora Bonetti Budini, lei è per Monti. Il quale Monti appoggia Albertini? Ma di che, lei è capolista? Ma insomma, dai, litigano tra di loro, ma è una cosa assurda. Vabbè, torniamo dopo la pubblicità con Paola Concia, candidato al Senato in Abruzzo, stasera tanto Abruzzo. Pubblicità, traffico anzi. S'approcio in me, perché c'è da ridì. Non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio in me, e che ce passo fa? Sono libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Oppure vogliamo davvero ritornare ai tempi in cui la gente come me prendeva il mare, spediti in esilio su quell'isola lontana, nel nome della virilità italiana. Dice sua eminenza che è un gravissimo peccato. Eccoci qui, eccoci qui, Parenzo, eccoci qui. Allora, però, onorevole Concia, siamo seri, Roma non è che è un posto dove uno deve avere paura a uscire, come dice Vendola, no, su, non mi dica questo pure lei, perché lei è romana, io non abito a Roma da tanti anni, però non mi dica che adesso c'è questo problema qui, perché non è vero, su. Ovviamente usciamo era diciamo una cosa per far capire il problema, naturalmente usciamo tutti ringraziando il Dio per Roma. Guardi, Cruciani, quello che le dico io è una cosa molto più di razionale, è una cosa che è sotto gli occhi di tutti. Roma, che sia una città dove sono le sparatorie, le cose, è aumentata la violenza. Sì, vabbè, ho capito. La violenza però... in generale è un dato di realtà. Vabbè, ma sì, che... vabbè, ma quello succede per non è che perché c'è il sindaco così o l'altro. Ma il sindaco non ha saputo gestire il tema della sicurezza in generale. Ho capito, però non è Vendola adesso ha detto, io tra l'altro c'ha pure la scorta, per cui non si capisce che problema dovrebbe avere. Io invece no. Ma perché non mi dica che lei gira per Roma in quanto omosessuale, ha paura di girare per Roma in quanto omosessuale anche lei? No, questo non lo dico, no, io giro per Roma giorno e notte, per carità. Ah, però ecco, appunto. Lei è visibile come Vendola, visibile come Vendola. Sì, è una donna pubblica che ha fatto coming out, che è omosessuale, dichiaratissima, sì. Non mi pare che abbia paura a girare per strada da sola. No, diciamo... però adesso non alimentiamo qualche matto, cioè non diamo no, la guarda per carità. Matto. No, però voglio dire, uno può essere, io stamattina ho fatto un Twitter, sono stato preso d'assalto da qualcuno, perché ho detto, io sono favorevole al matrimonio, sono favorevole all'adozione, come lei sa benissimo, però mi posso permettere di dire che sostenere, come fa Vendola, che Roma è diventata una città off limits per gli omosessuali, che bisogna avere paura a girare, mi sembra una stupidaggine, punto. Io le dico semplicemente, Cruciani, che è una città che comunque è peggiorata da questo punto di vista. Io le devo confessare... Ma peggiorata su che cosa? Nei confronti dei gay o in generale? Perché se ma mi dici in generale... In generale, d'accordo, quello è un altro discorso, però. In generale c'è un clima maggiore di intolleranza su Cruciani. Io le devo dire che mi sento più tranquilla a Francoforte e non a Roma, questo è un dato ma di realtà. Ma se lei mi ha detto che scorazza dalla mattina alla sera a Roma senza problemi, sì, scusa. Ma perché così, sì, però è una sensazione che questa lei sicuramente non ha. No, non sono omosessuale, dunque non lo posso sapere, però ho capito, però frequento un sacco di persone, esco con persone, non mi interessa, non mi sembra che siano terrorizzati dal girare per Roma. Poi c'è sempre qualche imbecille, c'è a Roma come c'è anche a Francoforte. Sì, questo sicuramente. Insomma, mi sembra una polemica un po' assurda, lo dica anche lei, Vendola. Però, Roma, io scorazzo dalla mattina alla sera per Roma e non c'è nessun problema, lo dica. No, io vado in giro, ma pure Vendola va in giro per Roma. Vabbè, c'è la scorta. Però l'ha detto, mi sento insicuro. Lo so, ma è una sensazione che io capisco, ecco, questo. Questo voglio dire, perché anch'io cioè questa sensazione di una città diventata insicura, questa ce l'abbiamo tutti i romani. Ma però la città è insicura in generale, adesso lasciamo perdere la questione di Alemanno, no. Lei dice è aumentata la violenza a Roma, però non è che una città che uno dice omosessuale va a Roma e deve avere paura di girare per Roma in quanto prima, omosessuale. Cruciani, però prima Roma, Roma è la città della più grande comunità omosessuale in Italia. Non mi pare che siano tutti terrorizzati, ne conosco un sacco. Però di episodi di violenza omofoba ce ne sono stati moltissimi, questo è un dato di realtà, non è che ma ne sì, sto d'accordo, che, però non è che ma che magari che sono più vengono più alla luce, prima nessuno li denunciava. Cioè, voglio dire, non mi pare che uno dice "Oh, c'è la caccia al frocio per Roma", se io uso frocio perché lo posso usare e sono stato sdoganato. Ho capito, Cioè non mi pare è che stato autorizzato vita ai massimi vertici. Esatto, esatto. Però mi dico una cosa. Però la Concia, l'onorevole Concia ha ragione. Su che? Forza, ma aiuti, ma quello che dicevamo prima. Ma no, ma che mi aiuti? Dice, non vuole dire la stessa cosa che dico io, che Vendola ha detto la stupidaggine, non ha il coraggio di dirlo. No, è vero, no, ma non è un dato di realtà. Adesso, a parte gli scherzi, lo sa che io sono anche una donna spiritosa. Ma qual è il dato di realtà? Vendola ha detto una cosa precisa, cioè che lui si sente minacciato a girare per Roma. Cruciani l'ha detto, cioè evidentemente è una sua sensazione. Vabbè, ho capito, ma non è che uno, io posso dire mi sento il Papa, però non lo sono il Papa, vuol dire, ci sono sensazioni diverso, realistiche o no. Vabbè, comunque, comunque lei alla fine si ritrova con Monti, con tutti quanti là, mamma mia quanto godo, alla fine si ritrova con Monti, con la Borletti Buitoni, con Casini, con Buttiglione. Ma che c'entra lei con questi? La campagna elettorale ancora è lunga, io sto girando l'Abruzzo in lungo e largo. Però potrebbe trovarsi con l'inciucione, con insieme a Buttiglione, a tutti questi, quanto mi divertirei di nuovo. Altro che Binetti e Fioroni, altro che Fioroni, lei si ritroverà con tutti quelli là. Che succede là? È caduta, vabbè, domani, ma basta, mi sono rotto le scatole. Domani, chi c'è? Parenzo, ci sei? Ma certo. Borletti Buitoni, sentiamo, va. Che la sua è sostenuta dai partiti di sinistra e di centro-sinistra, la nostra si baserà a livello nazionale su una questione di contenuti e di riforme, ma dal punto di vista della proposta lombarda non mi pare che la distanza sia così chilometrica. Salvini, vabbè. Adesso io sono sempre affascinato dai capelli della Borletti Buitoni. Patrizia da Modena, veloce, Patrizia. Salve, anch'io sono affascinata dalla pettinatura della signora, mi piace molto. Ah, le piace, Patrizia? Lei deve andare dallo psicologo, però, scusi. No, forse no. Beh, come no, ammazza. Guardi, no. Ce l'accompagno io proprio col coso, col calesse, guardi, col calesse. No, ma perché? Ho bisogno. Ma di che parliamo, su? Dai, non ho bisogno. Un po' di... una cosa, sì. Io sono di Modena e lei sa che Modena ha 50 anni che è sotto i rossi. Capito, allora rossi, ecco, diciamo, quelli che c'è gente che va c'è gente che va democraticamente a votare, lo posso dire io tranquillamente, esatto. E che sceglie di votare. Io ce l'ho morto con i modenesi, quindi va bene. Volevo solo dire, se lei fa un giretto con sua moglie per l'Italia, venga a fare un giro a Modena e vedere com'è ridotta questa città. Ma con chi è che dovrei venire, scusi? Con chi è che dovrei venire? Con sua moglie. Ma io vado con chi mi pare. Cioè, io sto, mamma mia, ma lei è sempre così suscettibile. Sono incazzoso, sì. Me ne accorgo anch'io sono incazzosa, però ogni tanto un po' di... è un ragazzo, è un bel ragazzo, è una persona, lei dice, un po' rilassato. Io ho detto sua moglie perché lei parla. Ma sto scherzando, su Patrizia. Ma no, può venire esattamente come ci vuole, volevo soltanto dire che se lei venisse. Vabbè, a vedere, guardi, come il punto non Modena, ma non mi sembra che Modena adesso è soggettivamente. Va bene tutto, le critiche, le amministrazioni, cioè, non mi pare che sia una città in preda, così come dire, al saccheggio, alla sporcizia, che sia una situazione disastrosa. Come sì, ci sarà qualche problema, per carità, ma lei mi fa l'esempio, non è che mi sta parlando, abbia pazienza, non voglio fare nomi di altre città. Modena, Emilia Romagna, ma di che parliamo? A domani, va. Ho sparato 3 cazzate in 5 giorni, sono tutti in paranoia. Che figata. Ho detto Mussolini, Balotelli, Imu, poi ho adottato un cane e ora sono al 20%. Ma te pensa un po' com'è bello questo paese. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Grusciani? Radio. Radio. Come si chiama questo? Grusciani. Grusciani. Radio 24. La passione si sente.